si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Eccoci qua con Si può fare, ben ritrovati. Staremo insieme fino alle 11. I nostri contatti, se volete interagire con noi subito, da subito, in tempo reale, l'account Twitter del programma è @ Si può fare 24. Siamo anche su Facebook, Si può fare _ Radio 24. Oh, prima di andare, anzi tra poco andremo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali, per chi non avesse già sentito la rassegna stampa un'oretta fa di Mauro Meazza. Parleremo più avanti, avremo come ospite uno degli dei membri dell'orchestra di Roma, fresca di licenziamento, per loro naturalmente non è una buona notizia, per diciamo i conti pubblici sì, perché come sapete si tratta di fondazioni che erano al tracollo dal punto di vista finanziario. Cercheremo di capire come e perché, fino a che punto è giusto che si spendano soldi dei contribuenti per mantenere in piedi fondazioni, sì, che sono sicuramente un vanto per l'Italia nel mondo per quanto riguarda la nostra immagine all'estero, perché la lirica, sapete, è l'immagine dell'Italia nel mondo, ma fino a che punto è giusto mantenere in piedi queste fondazioni? E poi naturalmente ne parleremo anche con voi ascoltatori più avanti. Adesso andiamo ad iniziare. E allora, come sempre per iniziare, una buona notizia, che questa mattina sono due, riguardano il mondo dei prodotti e dei rifiuti. Intanto prosegue in Italia la serie delle iniziative per incentivare il riciclo. Questa volta a Siracusa, siamo a Siracusa in Sicilia, buoni sconto sulla spesa, ma anche dal parrucchiere in farmacia per chi fa la raccolta differenziata. L'iniziativa del comune insieme ad aziende private locali che hanno deciso appunto di incentivare chi fa la raccolta differenziata portando soprattutto bottiglie di plastica e lattine con delle tessere a punti che poi ti danno lo sconto dal parrucchiere a fare la spesa, alla parafarmacia, eccetera eccetera eccetera. Iniziative che vorremmo vedere diffuse sempre di più lungo la penisola. L'altra notizia riguarda invece la Francia, una mezza notizia perché in realtà si tratta di un emendamento non ancora approvato ma che potrebbe rivoluzionare la produzione nel mondo, secondo me, perché si tratta dell'obsolescenza programmata. C'è un emendamento a una legge in Francia che, se passerà, metterà come reato, cioè sarà vietato per le aziende produrre volontariamente, scientemente, prodotti, come si sospetta accada, destinati a durare tot anni e non di più. Insomma, ancora una volta la Francia, nel bene o nel male, è sulla frontiera dei nuovi diritti. Vai! Oh, ma adesso cominciamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi, titoli un po' sparsi. Si parla ancora di lavoro con insomma l'incontro in vista tra il governo Renzi e i sindacati sulla riforma del lavoro, il presidente di Confindustria Squinzi che dice non cedete sull'articolo 18, ma sul TFR invece la Confindustria si schiera per il no, il TFR in busta paga. Titolo del Corriere, intanto dedicato ad un sondaggio. Sindacati bocciati dagli elettori del Partito Democratico. Secondo Nando Pagnoncelli e il suo istituto di ricerca, due elettori su tre del Partito Democratico bocciano i sindacati che hanno preferito fare la politica a lavoro. Poi prosegue martedì, Renzi proporrà un piano per i nuovi contratti. Come dicevamo, Squinzi dice no al TFR in busta paga, e questo lo vedremo meglio sul Sole 24 Ore. C'è un commento a proposito di questa notizia di Dario Di Vico, il vice direttore del Corriere. Nel Jobs Act la mossa per abbattere l'ultimo tabù, cioè il salario minimo. Allora, vediamo di che si tratta. Finora l'attenzione di merito sul Jobs Act governativo si è concentrata sull'articolo 18 che ha cannibalizzato tutto il resto, ma e soprattutto l'altra scelta di grande discontinuità contenuta nel provvedimento sostenuto da Renzi, e cioè il salario minimo. Con l'introduzione di questo salario minimo, scrive Di Vico, il contratto nazionale verrebbe limitato, mentre ne uscirebbe esaltata la contrattazione aziendale. Ecco perché i sindacati sono contrari. Difficile poi spiegare a un marziano perché i sindacati dovrebbero essere contrari a un salario minimo, che dovrebbe essere una cosa che va incontro ai lavoratori, ma ci sono delle ragioni. Il minimo stabilito per legge avrebbe un'altra valenza, scrive Di Vico: far emergere il lavoro sommerso, questo è l'importante, e combattere il caporalato, in settori nei quali la rappresentanza sindacale è evaporata e vige la pratica degli appalti al massimo ribasso, cioè appalti, subappalti, subappalti di subappalti, e alla fine si svolgono dei lavori stra sottopagati. Ecco che il salario minimo interverrebbe in questi casi, essendo stabilito per legge, renderebbe impossibile questa politica dei ribassi. E questo è, diciamo, il punto forte, secondo il Corriere, secondo il commento di Dario Di Vico, che è alle viste, cioè il prossimo elemento di scontro però con i sindacati, che su questo sono contrari, perché, ripeto, il salario minimo limiterebbe la contrattazione, il contratto nazionale, esaltando il contratto locale aziendale. La fotonotizia del Corriere invece è dedicata a Dilma Rousseff, che è presidente brasiliana uscente. Oggi il Brasile vota 142 milioni di persone al voto, un grande paese, importante, anche se l'economia del Brasile sta un po' andando a rilento, però parliamo pur sempre di una delle grandi potenze. Si va verso un ballottaggio probabilmente tra Dilma Rousseff e uno dei due candidati, o l'ambientalista o il rappresentante del centrodestra. Però, diciamo, già la possibilità che Dilma Rousseff, partito dei lavoratori, sia in testa nei sondaggi, secondo il Corriere, ha provocato una piccola burrasca finanziaria: dollaro alle stelle, borsa a picco, fuga di capitali. Il motivo è che con la presidenza Rousseff, magari non sarà colpa sua, ma di fatto è così, l'economia brasiliana non sta andando bene, la paura che venga confermata questa la guida appunto del Brasile. Andiamo su Repubblica. Il no di Confindustria, niente TFR in busta paga, lavoro lite sulla fiducia. Repubblica però intervista il ministro per i beni culturali Franceschini a proposito della questione degli enti lirici, come diciamo, ne parleremo più avanti anche noi. Lirica, basta sprechi, e in futuro nei teatri solo contratti a termine. Questa, diciamo, è l'altro annuncio del ministro Franceschini. Leggiamo l'intervista. Dice prima di tutto, dice: ministro, adesso si teme che il provvedimento Lacrime e Sangue di Roma si estenda ad altre fondazioni in crisi. È così? No, non ci sarà un contagio. Il caso di Roma è isolato, questo è chiaro. Nessuno degli altri 8 teatri lirici è in crisi, è in quelle condizioni, ma auspico che in futuro si vada verso situazioni in cui orchestre e coro siano interne ai teatri, ma con contratti a termine, una procedura che potrebbe essere applicata ai nuovi assunti, un modo per aprire ai giovani e per mettere fine alle rendite di posizione, cioè contratti a termine tra l'ente, tra il teatro e il coro. Quindi, diciamo, non il classico contratto a tempo indeterminato. Una deregulation, domanda l'intervistatrice a Franceschini, anche nel mondo della lirica? Sì, bisogna che i teatri lirici non sprechino più e che si dotino di rapporti di lavoro moderni. Sono qui per cambiare, dice Franceschini, lo Stato, e queste sono le cifre importanti, dà alle fondazioni 186 milioni di euro, più 125 milioni di euro a quelle in crisi. Per tutto il resto del sistema musicale rimane il 23% dei finanziamenti. E parliamo di altri 29 teatri di tradizione, 50 festival, tutto il jazz e la musica contemporanea, cioè la lirica ciuccia, diciamo, detto volgarmente, l'80% dei fondi che lo Stato destina alla musica. Bisogna che a questo impegno, prosegue Franceschini, così sostenuto, corrisponda una gestione della lirica più sana, parole giustissime ovviamente, ma insomma, forse già dette anche in passato. La mia idea è che la lirica vada finanziata perché è un'eccellenza italiana, ma se lo Stato investe per 14 fondazioni il 47% del Fondo Unico per lo Spettacolo, cinema, teatro compresi, non è per garantire l'indennità di umidità o di frac, perché tra i vari privilegi c'era anche questo, l'indennità di sinfonica, per cui quando veniva suonata una sinfonia anziché un'opera venivano pagati il doppio gli orchestrali di Roma, privilegi ingiustificati che hanno portato sicuramente, hanno contribuito al fallimento del coro e dell'orchestra, e che adesso non possono più essere sostenuti, questo che dice Franceschini. E lo dice anche con un certo orgoglio. La sinistra è cambiata, certo, questo è un commento che si potrebbe fare, oppure, come dice il sindaco di Roma Marino, è di sinistra tagliare questi privilegi, questi sprechi, vedetela come volete. Prosegue Franceschini. Che orchestra e coro dell'opera restino a casa è da dimostrare. Finora è stato solo prospettato un percorso il cui sblocco finale è che si ricomponga il rapporto con gli stessi professionisti, in forma nuova, con una esternalizzazione che si è resa doverosa, con rapporti contrattuali diversi e trasparenti. All'estero ci sono orchestre interne ai teatri, ma con contratti triennali e quadriennali che poi si ridiscutono. Questo è il modello che mi piace e che permetterebbe anche ai giovani di avere delle possibilità. Cioè il modello auspicato dal ministro è questo, orchestre organizzate su base privatistica con delle cooperative, con delle società ad hoc che fanno contratti coi teatri di alcuni anni, contratti che poi vengono ridiscussi in base un po' anche ai risultati, quindi tempi, diciamo, vacche più magre per gli orchestrali. Sicuramente ci sarà ancora il sostegno dello Stato a questo tipo di attività culturali perché se ne riconosce il valore, ma si spenderà un po' meno di quello che è successo fino adesso. Sulla Stampa, articolo 18, Renzi vuole l'intesa per il vertice europeo, cioè si torna al tema che dicevamo prima, ricorso al giudice solo in casi limiti, Squinzi dice no all'anticipo del TFR. Insomma, Renzi vuole l'intesa con i sindacati, però sembra che la strada sia ancora in salita, anche per quello che diceva prima il Corriere, ricordava, oltre all'articolo 18 anche il salario minimo. A proposito di quello che bolle in pentola a sinistra, la Stampa scrive: a sinistra nasce la rete anti-premier, alla manifestazione di Sella a Roma anche Civati, l'addio a, che dice l'addio al PD mitenta. Ieri alla manifestazione che si è svolta a Roma c'erano Civati, c'era ovviamente Nichi Vendola, c'era Maurizio Landini, il segretario della FIOM, e qualcuno vede in questa manifestazione un embrione di una nuova sinistra, alquanto minoritaria per il momento nei sondaggi, visto che Sell ha preso pochi punti percentuali, e Civati tutte le volte che si è cimentato nelle primarie o in altre valutazioni numeriche del suo peso elettorale ha sempre raggiunto poco, però questo è quello che secondo la Stampa si muove. Il Papa e la famiglia, la Chiesa si rinnovi. Oggi si apre il sinodo, il titolo, secondo titolo della Stampa è questo. Francesco apre il sinodo, non temo il dibattito. La Chiesa ascolti le angosce degli uomini. È il messaggio ai vescovi di Francesco. Davanti a 80.000 fedeli durante la veglia di preghiera in Piazza San Pietro, la vigilia dell'apertura del sinodo sulla famiglia. Il cardinal Bagnasco, che di rimessa dice non vogliamo combattere battaglie di retroguardia. Staremo a vedere. La fotonotizia sulla Stampa, ma anche in altri giornali, dedicata ad Abu Saed al-Britani, il miliziano jihadista, cittadino britannico di origini pakistane, che ieri si è rivolto direttamente agli occidentali, all'Inghilterra e a Cameron. Cameron, ti colpiremo. Il video di un jihadista inglese che lavorava in un supermercato, pensate, a nord di Londra. Poi subito questa trasformazione, è tornato nelle terre dell'ISIS e non si sa esattamente adesso se si trovi in Iraq o in Siria, in Iraq probabilmente, e ha deciso di fare la jihad. Se non fosse una cosa seria verrebbe da ridere, ma è una cosa tremendamente seria su cui sicuramente dovremmo tutti un po' riflettere sul perché e sul percone, per come. Il Sole 24 Ore, titolo principale, dicevamo, dedicato alla presa di posizione del presidente di Confindustria Squinzi. Il governo non ceda sull'articolo 18. No al TFR in busta paga, sarebbe un regalo al fisco. Al forum di Napoli a piccola industria, Squinzi ha sollecitato il governo a non cedere sul tema dell'articolo 18, ma ha bocciato l'ipotesi del TFR in busta paga perché sarebbe un regalo al fisco. Segnaliamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche il commento di Guido Rossi, ricorderete, ex presidente Telecom, ex insomma, giurista, avvocato, stato anche eletto credo nelle file della sinistra come senatore indipendente anni fa. La democrazia in crisi e le sirene autoritarie, dice Guido Rossi. L'attuale disordine mondiale mostra contraddizioni evidenti e crescenti. Il capitalismo autoritario risulta vincente su quello liberal democratico. Globalizzazione e tecnologia hanno via via trasformato il capitalismo di produzione in un capitalismo finanziario, un'arena nella quale la creazione di valore nei beni prodotti ha ceduto alla speculazione basata sul debito, sia privato che pubblico. Dalla guerra fredda in poi il costituzionalismo democratico ha interrotto il suo cammino, gli stati europei hanno perduto identità. bla bla bla. La soluzione infine salvifica di una federazione europea sta svanendo negli umori di un elettorato che in larga misura la aborre, con grande rumore mediatico. È così, e questo è il punto, che la Troica, Unione Europea, BCE, Fondo Monetario, imponendo una rigorosa austerità, si è eretta a governo di fatto dell'Europa, pur priva di ogni legittimazione democratica. Cioè, insomma, il succo di questo commento interessante sul Sole 24 Ore di oggi è che la speculazione finanziaria la sta facendo da padrone, il capitalismo liberal democratico, le democrazie costituzionali sono in crisi in Europa, il risultato di tutto questo è che governa il Fondo Monetario insieme alla BCE. Adesso un po' brutalizzato, ma è un po' questo. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa per il traffico, poi torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Se volete commentare quello che sentite potete interagire con noi in tempo reale su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. È il momento a questo punto di ritrovare il curatore responsabile, il direttore dell'inserto culturale Il Sole 24 Ore, il domenicale Armando Massalenti. Ciao Armando, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica. Eccoci qua di nuovo insieme, insomma, in attesa di riaverti anche in studio prima o poi, ma insomma, gli impegni ti portano in giro qua e là. Allora, oggi, vabbè, il titolo dell'inserto mi incuriosisce, avere fede nell'evoluzionismo, insomma, un tema questo dell'evoluzionismo sempre importante e che anche poi a volte rischia di dividere, no, tra chi ci crede e chi non ci crede, sì. Ma insomma, questo è solo il titolo del domenicale di oggi. Ma guarda, intanto questo si parla di un libro molto importante che finora era stato pubblicato in inglese, però di un autore italianissimo che è Pietro Corsi, che adesso Morcelliana meritoriamente pubblica in una nuova edizione, si intitola L'evoluzionismo prima di Darwin, Baden-Powell e il dibattito anglicano. L'autore dell'articolo è Franco Giudice. Ora, Baden-Powell è il padre del fondatore dei Boy Scout ed era un importantissimo reverendo anglicano. La storia interessante che ci racconta Corsi è che molto prima della pubblicazione dell'Origine delle Specie di Darwin, che avviene nel 1859, cioè nel 38 addirittura, Powell aveva già, visto che già si discuteva, no, su quali potevano essere le origini della vita, e sosteneva una tesi molto molto aperta, e mentre invece il dibattito poi è stato dominato anni più tardi da una disputa molto dura che vedeva da una parte il naturalista Huxley e dall'altra il teologo Wilberforce, ed è rimasta questa nella storia, cioè uno scontro molto duro tra teologia e naturalismo, che invece in qualche maniera Baden-Powell, appunto il padre del fondatore dei Boy Scout, aveva già in qualche modo risolto, anzi dicendo che teologia e teoria dell'evoluzione, e mostrando in maniera piuttosto convincente anche ad un credente quanto potevano essere appunto rese compatibili e addirittura andare d'amore e d'accordo. E così, questa è la copertina, poi chiaramente ci sono tante altre cose nel nostro supplemento. Io vorrei citare una cosa, visto che in Twitter c'è già una cosa che ha suscitato un certo interesse, viene un po' ritwittata, rilanciata, è la pagina che abbiamo fatto sulla scuola, cioè sul fatto che martedì ci sarà alla LUIS un importantissimo incontro, ci sarà anche il presidente Squinzi, ci sarà anche il ministro del MIUR Stefania Giannini, ci sarà il nostro direttore Roberto Napolitano che coordinerà i lavori, e si parlerà di merito, valutazione, alternanza, innovazione, le 100 proposte di Confindustria. Ecco, ora questo cade proprio nel tipo di discussione che noi da mesi stiamo portando avanti. Ivan Lobello, vicepresidente della Confindustria di Education, ci fa una riflessione molto bella in questo numero, proprio mostrando quanto è prioritaria la questione della scuola oggi nel nostro paese, proprio se vogliamo ricominciare a crescere. E io ho rilanciato quella proposta di cui abbiamo parlato anche qui per radio, di fare della educazione civica, di quella che si chiama educazione civica, che adesso si chiama cittadinanza e costituzione, un insegnamento ricco di quei saperi di base, per cui accanto allo studio delle norme fondamentali della nostra convivenza civile, che sono scritte nella Costituzione, è necessario sviluppare nei ragazzi capacità per pensare con la propria testa. E quindi il critical thinking, quel mix efficace di strumenti che sono la logica, la teoria dell'argomentazione e la capacità appunto di non cadere in errori personali. C'è un pezzo molto bello di un matematico, Pierluigi Contucci, che ci fa capire quanto il ragionamento probabilistico in questo genere di saperi sia importante. Senti Armando, posso... Sì, termina sempre sì. Naturalmente, questi sempre al centro anche del domenicale, come è naturale che sia. Se non lo chiedo a te, non so a chi chiederlo, un commento su questa questione dell'orchestra di Roma, sai, insomma, la vicenda che ha un po' monopolizzato da questo punto di vista il dibattito, perché è giusto tagliare privilegi ingiustificati, sono soldi pubblici quelli che vanno alle fondazioni, d'accordo, però poi sappiamo che insomma la lirica è un'eccellenza italiana nel mondo. Insomma, il dibattito che porti avanti tu nel domenicale, il Sole 24 Ore, di una cultura che sia anche motore dell'economia e quindi una cultura sostenibile, come affrontare? È possibile questo modello di cooperative, orchestre esternalizzate? Cioè si va in un modello più europeo da questo punto di vista? Ma insomma, io adesso dico solo qual è il problema di fondo che pure abbiamo trattato, c'è un piccolo commento ecco, su questo di Quirino Principe e lascio i lettori farsi il loro giudizio. Quello che io voglio dire in termini molto generali è che per quanto riguarda la gestione dei teatri e dei teatri lirici in particolare, c'è un problema di produttività in questo paese che va assolutamente affrontato e risolto, ecco, quindi quello da quelle cose che tutti i problemi che noi vediamo nascono un po' da questo, cioè da modelli diciamo di produzione culturale, produzione degli spettacoli troppo antiquati e poco e troppo ingessati, ecco, insomma, quindi questo è un po' il commento che io mi sento di fare. Quindi prima, diciamo, se volessi un po' tradurre, prima di andare a tagliare, tu saresti per aumentare la produttività di questi teatri. Poi si discute sul caso se sia esatto, necessario tagliare o no. Può darsi che in alcuni casi tagliare sia necessario, però diciamo bisogna affrontare bene questo tema, ecco, capire. Un tema che mi sembra di capire, però riguarda un po' anche chi gestisce la parte manageriale, no? Quindi non soltanto il peso che grava sulle maestranze, quindi sugli stipendi, che pure probabilmente potevano avere anche degli aspetti di privilegio, ma tu dici queste importanti istituzioni vanno gestite meglio, sfruttando meglio, diciamo, la possibilità di, sì. Di produrre. Dobbiamo uscire dal pregiudizio che è un pregiudizio che era stato anche abbastanza fondato nel corso del tempo e lo è ancora, per carità, che queste produzioni sono talmente costose che devono sempre avere chiaramente un sostegno forte da parte dello Stato. Questo è vero, però fino a un certo punto, ecco, cioè, non esageriamo con questo resto che poi diventa un alibi. I conti vanno fatti in maniera va bene. Corretta. Ecco, questo, insomma, questo è un modo di coniugare, se vogliamo, la cultura economica del sole con la cultura in senso più ampio che noi trattiamo nel domenicale e che non deve essere qualcosa di completamente staccato. Benissimo, benissimo Armando, noi dobbiamo fermarci qua perché abbiamo quasi il giornale radio che incombe. Grazie intanto ancora per essere stato con noi, buona domenica, ci ritroviamo con il domenicale a quest'ora, domenica prossima, ciao! Ciao. Noi ci fermiamo per il giornale radio, torniamo subito dopo, apriremo anche il numero verde 800 24 00 24 per parlare con gli ascoltatori. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo insieme, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao a tutti, 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, potete insomma chiamare come sempre per mettiamo al vaglio degli ascoltatori le buone notizie, poi potete dire tutto quello che volete. E poi c'è il concorso, il personaggio della settimana. Il personaggio della settimana, mettiamo in palio per chi indovina i biglietti per la mostra di Chagall. Anche quest'oggi Parto io con il primo indizio. Partiamo subito così, giusto? Sì, tanto ormai tutti i nostri ascoltatori sanno. Quelli che aspettano, che fremono. Giusto, vai con il primo indizio. È un personaggio che divide. Ottimo. Così, mettiamo lì così. 800-24-00-24. Indizio laico. Largo. No, che laico. È domenica poi. Laico. Insomma, certo. Poi c'è il sinodo oggi. Esatto. Quindi oggi proprio di laico. Ma pensa poco. Se al sinodo sulla famiglia venissero fuori delle aperture del Papa sulle coppie di fatto, quando ancora lo Stato italiano non le riconosce. Sarebbe divertentissimo. È quello che si sta aspettando. Sarebbe, diciamo, molto. Anche perché lui, se non ho capito male, ha deciso che la decisione questa volta non la prenderà lui, ma la prenderà il sinodo stesso, cioè che loro al loro interno firmeranno un documento e quello sarà il documento. Credo che sia una cosa proprio un unicum Tra l'altro voglio dare anche una piccola notizia, perché su questa cosa del riconoscimento delle coppie di fatto, insomma, si è un po' aperta una diga da quando dov'è che hanno iniziato? In quale comune hanno iniziato a riconoscere le unioni fatte all'estero? Grosseto mi sembra, il primissimo dell'anno scorso. Era un caso più unico che raro, che poi, se non sbaglio, è stato modificato dal TAR. Poi c'è stata una diatriba a Bologna perché il sindaco lo voleva fare, ma il prefetto ha detto sono nulla, eccetera, eccetera. Insomma, quindi si sta un po' aprendo una diga da questo punto di vista. Palermo, c'è un caso: due dipendenti comunali hanno ottenuto il congedo matrimoniale dall'azienda, credo, dei trasporti locale. Che, insomma, loro sono sposati all'estero, sono arrivati qua, hanno chiesto riconoscimento, eccetera, eccetera, e l'azienda municipale dei trasporti della città, l'AMAT, gli ha riconosciuto il congedo. Ha visto? E questo è un primo notizie. Caso di un'azienda pubblica in Italia, perché già lo fanno alcune aziende private, di IKEA ne abbiamo parlato, insomma. E tra l'altro, riconoscere il congedo è quasi più importante che riconoscere la coppia. Tutto il resto. No, lo dico che in un momento in cui, ovviamente, diciamo, i soldi decidono tutto, nel momento che tu in realtà vai a intaccare una questione economica, cioè dai un diritto come il congedo anche a una coppia di fatto, è un diritto vero, insomma, in questo senso. La formula che a me piace utilizzare è: più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno. Esatto, perché questa è la grande questione, nel senso che comunque ammettere le coppie di persone dello stesso sesso non va a toccare minimamente tutto l'ordinamento della famiglia per invece le coppie eterosessuali. Tra l'altro nel sinodo ci sono ottime speranze, anche perché anche i Boy Scout hanno firmato un documento tipo in 30.000 in cui chiedono anche che la questione dell'omosessualità all'interno dei Boy Scout venga in qualche modo discussa, diciamo, messa all'ordine del giorno. Va bene, andiamo ad iniziare. 800-24-00-24, in attesa dei primi interventi degli ascoltatori, cominciamo anche noi oggi a parlare di lirica. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra. Salutiamo Marco Piazzai, che è il primo trombone dell'orchestra di Roma, nonché segretario del sindacato FIALS CISAL. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, noi abbiamo usato questa introduzione musicale, potevamo scegliere un pezzo di un'opera, non lo considero una scelta ostile, è semplicemente una questione di stile musicale della trasmissione. Intanto benvenuto. Lei è una delle persone che non so come funziona dal punto di vista tecnico. Avete ricevuto una lettera di licenziamento, insomma, poi oggi il ministro Franceschini, diciamolo subito, rassicura sul fatto che l'Orchestra di Roma continuerà a lavorare anche se con un contratto diverso. E poi precisiamo che quando qualcuno, se nel caso perde il lavoro, naturalmente non è che ci faccia piacere, questo anzi. Beh, continuerà a lavorare, dobbiamo sentiamo esatto, i lavoratori esatto. Che cosa dicono. Intanto, appunto, avete ricevuto che tipo di comunicazione, come siete stati avvisati di questi cambiamenti che sono in vista? Allora, attualmente non abbiamo ricevuto né individualmente né per quanto riguarda l'organizzazione sindacale nessuna comunicazione in tal senso. Pertanto stiamo aspettando gli atti ufficiali per poter dare, diciamo, una valutazione tecnica sì. più precisa di quello, di ciò che si tratta. Ma nel senso, senso del licenziamento, sta dicendo, non avete ricevuto? No, non abbiamo ricevuto ancora niente. Senta, ma lei che dunque lei suona è il primo trombone, cioè per capirsi è, che tipo di strumento è? Quello grosso che gira intorno? No. Capisco la vostra radio, diciamo, si occupa di altro, ma il trombone è quello strumento che ha la pulisse. Si occupa di altri tromboni, se ci permette questa battuta che prima o poi qualcuno deve fare, ci occupiamo di altri tromboni qua in radio. Politici, economisti, esatto. Eccetera. No, aspetta, ci stava spiegando, il primo trombone è? Il trombone è uno strumento che ha, diciamo, quella parte mobile che si muove. Ah, ok, perfetto, abbiamo a mente perfettamente, almeno io certo, ho capito. Certo. Senta, tanto per andare al sodo, perché qua si parla anche di stipendi, di privilegi. Lei quanto guadagna, se ce lo vuol dire? Sì, no, non ho nessun problema. Lo stipendio si aggira sui 2.400 euro al massimo, dipende dalle mensilità, ovviamente al massimo della carriera e con un livello molto alto. La media degli stipendi in orchestra e gli altri livelli, diciamo che sono la maggior parte, si aggira sui 2.000-2.100 euro. Perché per esempio dunque io leggo perché poi il nodo alla fine è anche questo, insomma, no? Costi che sono lievitati da parte di queste di questi enti, di queste fondazioni che e diciamo entrate che non sono paragonabili, anche se diciamo, è giusto dirlo, diciamo, subito, mi scusi, diciamo una cosa. Sì? Allora lei dice che i costi sono lievitati. Beh, questo sì. È abbastanza, diciamo, falso, perché è un'affermazione che viene fatta ormai da tanto tempo. I costi del personale sono diminuiti, sì. Perché da molto tempo praticamente vi è stato il blocco degli scatti a 5 scatti e le assunzioni di personale interno alle fondazioni sono sempre minori, quindi il costo del personale è diminuito. È chiaro, è aumentato, non è che sia diminuito. No, è diminuito. Il problema è che il finanziamento è diminuito e quindi la percentuale di incidenza del costo del personale è salita. Certo. È logico che se lei mi diminuisce il finanziamento di 10 milioni di euro, diciamo, nell'arco di 10 anni per quello che attiene, e il costo del personale rimane costante, con gli eventuali decrementi di quelli che sono i finanziamenti, la percentuale di incidenza del costo del personale sale. È chiarissimo. Ma il lavoratore non prende neanche un euro in più. Perché è rimasto uguale, è rimasto uguale e invece è diminuito il finanziamento, in questo senso. Se fosse diminuito, no, potrebbe rimanere la stessa incidenza. Gli stipendi fermi dal 2006, che è l'ultimo contratto collettivo nazionale. Però questo, mi scusi Piazzai, è un po' un caso, cioè, come dire, è un caso che si allinea un po' con una media paese, perché stiamo parlando in un paese in recessione, fermo, dove gli stipendi non crescono, anzi c'è molta disoccupazione e quindi dove c'è una spending review che riguarda tutti i settori della spesa pubblica, e quindi ci sono stati dei tagli che magari per lei sembreranno ingiustificati alle fondazioni liriche, però che sono giustificati dal fatto che l'Italia ha un enorme debito e si è cominciato a mettere mano un po' a tutto. Ora poi lei dirà: non saremo noi a dover ristrutturare i conti pubblici italiani, però il cittadino medio pensa che ogni parte, ogni, diciamo, pezzettino, ogni spicchio debba fare in qualche modo la sua parte. Sono perfettamente d'accordo con quello che dice, le dirò di più. Sì. Noi siamo dei lavoratori, abbiamo dei contratti subordinati, non possiamo incidere su quella che è la programmazione. Adesso le faccio un esempio. Perché non facciamo come si fa all'estero, dove si fanno 20 spettacoli in un mese e 6 giorni di prove? Perché da noi si devono fare 20 giorni di prove e soltanto 6 spettacoli? Giusto, giusto. Con 6 spettacoli che costano quanto 20 spettacoli. Questo va detto. Noi non possiamo incidere assolutamente sul sulla programmazione che rimane esclusiva, diciamo, della direzione aziendale, i quali scelgono queste. Se loro avessero scelto politiche completamente diverse anche a partire da qualche anno fa, i teatri non avrebbero avuto questo dissesto. Devo dire che su questo le do ragione. Mi faccia dire una cosa, perché magari lei non ha sentito. Prima, intervistando il direttore dell'Inserto Culturale sulle 24 ore del Domenicale, Massa Renti, gli ho fatto la domanda e lui ha posto proprio un problema di produttività, cioè queste fondazioni, queste orchestre sono gestite in modo da avere una scarsa produttività, e questo chiaramente non è colpa delle maestranze. Si fa il paragone con gli stipendi di altri paesi, però in altri paesi queste orchestre lavorano magari di più, producono di più, che è quello che diceva lei. Quindi sicuramente no, c'è anche lavorano di più, sì? Perché il carico di lavoro è lo stesso in tutto il mondo, questo è riconosciuto. Le dirò di più, se noi andiamo a prendere, diciamo, lavorano nel senso che fanno più spettacoli, ecco, questo sì, è quello che diceva lei, ovviamente. E su questo ha ragione, perché insomma è ovvio che se io produco concerti e faccio due concerti all'anno, è chiaro che poi intasco poco in termini di biglietti. Se chi mi gestisce mi fa fare 20 concerti, probabilmente, diciamo, entrate e uscite, ma come mai in Italia si prova di più e si fanno meno concerti? Le spiego subito perché. Perché il meccanismo dello star system, che affida registi, scenografi e quant'altro, nonché i cantanti, praticamente ha un costo che è superiore oltre il doppio di quello che è all'estero. Cioè in Italia costano il doppio le produzioni, e quindi vengono portate, per quanto riguarda i cachet cantanti, scenografie, regie, vengono fatte tutte produzioni nuove che hanno un costo enorme, oltre il doppio di quello che avviene all'estero. E quindi, scusi, avendo un costo enorme fanno meno repliche, perché il costo è a replica? Certo, è evidente. Perché le repliche non si ripagano. Ogni spettacolo viene pagato il direttore d'orchestra, ogni spettacolo vengono pagati i cantanti, ad ogni spettacolo vengono pagati i registi, per ogni spettacolo vengono pagate le scenografie. Certo. È logico che se noi a Teatro dell'Opera di Roma possediamo quasi 100.000 costumi, sì, a che cosa serve fare nuovi costumi per una Tosca di cui abbiamo addirittura 3-4 allestimenti diversi? Questo però riguarda diciamo l'orchestra di Roma, il teatro di Roma, o riguarda in generale? No, perché oggi Franceschini, mi scusi Piazzai, Franceschini dice, intervistato alla Repubblica, che il caso di Roma è unico, cioè questa cosa che è successa a Roma, che si va verso una diciamo un contratto privatistico, una cooperativa da parte degli orchestrali che continueranno a lavorare, questo dice Franceschini, ma succede solo a Roma, altrove la situazione non è così grave, evidentemente c'è qualche problema che è lì che altrove non c'era. No, guardi, le fondazioni hanno accumulato 390 milioni di debiti in tutta Italia, tutte e 14 le fondazioni, quindi tutti quanti hanno i debiti. Si sta facendo una scelta di apripista nell'ambito di quella che è l'offerta culturale, distruggendo un'orchestra e un teatro. Lei mi capisce, la cooperativa com'è che farà garantire da questo punto di vista l'inserimento all'interno degli spettacoli dei musicisti ad alto livello? Beh, a questo punto possono essere qualsiasi, perché si va a ribasso per quello che è, diciamo, gli stipendi, ovviamente si perderà qualsiasi identità. Una squadra di calcio non è fatta solo da stelle, è fatta anche da amalgama, da persone che lavorano insieme costantemente. Sì, però mi scusi, quando noi sentiamo cose tipo l'indennità sinfonica, o in cui, a meno, mi ricorrega se sbaglio, venivate pagati il doppio se suonavate delle sinfonie anziché delle opere, oppure la diaria per una giornata all'estero 190 euro, oltre a rimborso spese, non è un po' tanto? Allora, guardi, per quanto riguarda il discorso delle indennità, dobbiamo aprire chiaramente un capitolo bene. Cioè, non era meglio mollare su qualcosa anziché arrivare al licenziamento? Forse era più conveniente, no? Guardi, che nelle indennità che noi, diciamo, abbiamo sono l'indennità mensa e l'indennità strumento, perché noi portiamo... Cioè, non c'è l'indennità sinfonica? L'indennità sinfonica non è il doppio dello stipendio giornaliero, ma è praticamente, sono circa 30 euro netti qualora vengano fatti concerti. A Teatro dell'Opera di Roma, se lei scorre indietro, i concerti che noi facciamo praticamente sono... si contano sulle mano, sulla mano, su una mano. Forse perché c'è questa indennità. Guardi che un concerto d'entità sinfonica può costare circa aggiuntivamente circa 5.000 euro. Se parliamo di 25.000 euro ogni anno, possiamo rinunciarci tranquillamente, certo. ma non essere licenziati. E la diaria per la giornata all'estero? Perché uno dei casus, sì, belli che sono scoppiati con Muti è che non volevate seguirlo all'estero se non con il corrispettivo di una diaria di 190 euro al giorno, che alloggio rimborsato non sembra pochissimo, insomma. Allora, solo per mangiare. Le diarie sono state stabilite secondo la legge 100 di Bondi attraverso le tabelle ministeriali, quindi prendiamo la diaria sulla base della tabella ministeriale. 190 euro è una diaria che non abbiamo mai percepito in nessun caso. Cioè, ma in una giornata di lavoro all'estero quanto percepivate di diaria? Dipende dal paese, perché c'è una tabella ministeriale, sì, del Ministero delle Finanze, che riguarda le trasferte all'estero dei pubblici dipendenti, e noi sono sempre state applicate quelle per legge, sì. Di fatto sono quelle, sono... Però al di là del fatto che sia una legge, che secondo me è una legge sbagliata, se è questa la legge, perché 190 euro dopo il rimborso anche dell'albergo mi sembrano tante. Noi quando vado in trasferta mi pagano meno di un quarto di quello che per il pasto. È una legge sbagliata, secondo me. Le chiedo però, sareste disposti a rinunciare a questo? Guardi, noi abbiamo proposto. Non era più semplice rinunciare prima a questi privilegi anziché arrivare al licenziamento? Noi abbiamo rinunciato. Abbiamo sempre, in ogni caso, proposto all'azienda che pagasse vitto e alloggio completamente, senza sborsare nessun'altra cifra riguardante le eventuali patti o quant'altro. L'azienda, la fondazione non ha mai scelto questa strada, non capiamo perché, non ce lo spieghiamo, adesso ce lo spieghiamo forse per creare un casus belli da questo punto di vista. Quando dice l'azienda intende il sovrintendente? Certo. Beh, forse anche perché è più scomodo fare il rimborso, diciamo, di tutto quello che uno mangia piuttosto che dare un cachet. Noi abbiamo proposto all'azienda di trovare, diciamo, di trovare il ristorante in convenzione, di pagarlo lei direttamente, quindi per avere un costo diretto senza avere costi indiretti che sono riferibili al lordo nonché ai contributi previdenziali che le trasferte, superato un certo limite, producono. Certo. Quindi c'era tutto il sistema. Per quanto riguarda Salisburgo, abbiamo proposto alla direzione di andarci senza, diciamo, trasferta, purché loro pagassero vitto, alloggio e viaggio, ovviamente. E perché poi è finita come è finita? Ah, perché qualcuno forse può farla finire in un certo modo. Cioè, ma in realtà lei quello che sta dicendo è che questa è anche un po' una provocazione per modificare il sistema delle orchestre, cioè per dire, certo, o così... È tutto strumentale. Ma le posso... Mi scusi, io sono lo stupido dei due, non sono il giornalista, quindi forse le faccio una domanda stupida. Ma che cosa succede nel momento in cui si dovesse accettare questa la questione della cooperativa? Cioè, che cosa cambia per voi? Nel momento in cui si accetta, intanto, diciamo, questa domanda va fatta alla fine, diciamo, di quello che è un percorso, perché noi, certo, è stata aperta la procedura di un licenziamento collettivo per esuberi. Adesso lei mi spieghi, se ci sono dei esuberi e persone che non servono, perché poi dopo si riassumono attraverso un'esternalizzazione? Questo è, diciamo, un perché fatto, prima costavano troppo. No, forse. Ma ha ragionissimo, perché non è un vero esubero, non è un esubero, ma è un desiderio di risparmiare. Allora invece di fare la procedura, diciamo, da 2-2-3, dovevano proporre a noi, diciamo, una riduzione dello stipendio, non fare una procedura di licenziamento collettivo, che in questo caso diventa una minaccia e di fatto. Giusto. Ma non ve l'hanno mai proposto? Ve l'hanno proposto una riduzione dello stipendio? No. Quindi è falso quello che hanno scritto i giornali, certo, che non avete voluto seguire Muti all'estero perché non vi davano la diaria? Ma neanche per è falso? Le persone che non sono venute, diciamo, all'estero, in Giappone, che sono, le dico di più, sono 23, hanno fatto lo spettacolo del balletto della Bella Addormentata programmato al teatro. È il teatro che non ce l'ha inviate, 23 persone. In quello stesso periodo c'era la Bella Addormentata, il balletto, e le 23 persone hanno lavorato in teatro. È il teatro che ha scelto di non mandarle per continuare a fare una produzione a Roma. È tutto falso. Ma io voglio capire la questione della cooperativa, nel senso, voi rimarreste comunque dei dipendenti oppure no? Sareste dei soci di questa cooperativa e quindi poi la cooperativa chiama chi vuole, voi non avete più la certezza del lavoro? È quello che ha detto lei. è quello che ha detto, la certezza non vi è più, perché se non siamo più dipendenti. Però scusi, c'è un modello, è stato detto, o anche questo è sbagliato, che viene utilizzato in altre città, cioè orchestre che sono delle cooperative e hanno dei contratti con i teatri. Perché a Vienna sono tutti stabili, a Francoforte sono stabili, a Berlino sono tutti stabili, al Covent Garden sono tutti stabili, all'Opera di Parigi. Cioè non c'è nel mondo un caso di, come è stato detto, di orchestra che ha il contratto con il teatro? Non esiste al mondo? Ce n'è soltanto uno ed è un'orchestra che ha questo tipo di rapporto dal 1953. Che dov'è questo unico caso nel mondo? Madrid. Va bene, insomma, poi staremo a vedere, perché è tutto ancora da definire, c'è una procedura appunto sindacale. Ovviamente quello che le dico è questo, che lei deve sapere che l'8 luglio è stato firmato un accordo per il quale non vi era nessun esubero e il mantenimento delle retribuzioni. Questo è stato firmato a norma della legge Braille. Quello che però non ha firmato la CGIL, se non sbaglio, vero? Sì, quello che non è stato firmato la CGIL, ma è stato accettato al Ministero, quindi va avanti. Mi spiega com'è che subito dopo si fa un tipo di ritorsione? Forse tutto era già stato programmato perché venisse, diciamo, fatto in modo ritorsivo verso i lavoratori, quello che è successo. Ma intanto uno dei tre sindacati non era d'accordo, quindi c'è sicuramente una parte dei lavoratori che voleva, diciamo, condizioni ancora migliori di lavoro. Il referendum è stato fatto, i lavoratori l'hanno approvato, non capisco dov'è il problema. Sì. Non lo capiamo neanche noi al termine di questa intervista, forse staremo a vedere, non è che possiamo chiarire noi oggi tutti gli aspetti della vicenda. Ci interessava però sentire anche la voce degli orchestrali, giustamente, perché a un certo punto è facile anche dare addosso semplicemente alle persone che comunque fanno lavoro, guadagnano uno stipendio, avranno avuto dei privilegi, però sono convinto anche io, mi faccia dire una cosa Piazzai, sono convinto anch'io che ci siano degli errori nella gestione di queste orchestre da parte dei manager, che quindi non possa ricadere tutto semplicemente su chi magari con qualche privilegio di troppo, ma faceva il suo lavoro e guadagnava uno stipendio. Guardi, alto basso che fosse. Il privilegio di cui lei parla si riferisce a un'indennità strumento, dove io fornisco all'azienda 20-30 mila euro di capitali strumenti minimo. No, minimo, e mi spiega a questo punto, io sono il lavoratore che diciamo con un contratto subordinato porta gli strumenti per poter raggiungere l'obiettivo dell'azienda, della mia fondazione. Mi spiega 20-30 mila euro di strumenti che noi portiamo. Sì, però Piazzai, no, non è, cioè, il suo strumento forse è giusto, cioè fa parte di lei, è suo, è anche una forma di arte questa, o no? Cioè non è che le dovevano comprare anche il trombone? No, il contratto prevedeva che la fondazione fornisse gli strumenti, altrimenti la differenza era darci 50 euro lordi al mese. Vabbè, guardi, io di fronte a questo mi arrendo, alzo bandiera bianca. So che le serrende. No, però è molto giusta questa cosa qua, perché in effetti è un caso in cui il lavoratore deve portarsi da casa gli strumenti di lavoro, quindi è giusto che ci sia un'indennità su questa questione. 50 euro lordi però al mese per strumenti che costano 20, 30, 40 mila euro. Ma questo secondo me è molto corretto, la cosa che però sono suoi e resta suo, il suo strumento è suo e fa parte della sua vita, che devo dirle? Ma preso un mutuo per comprarsi uno strumento? Ma lei si metta nei panni degli altri dipendenti pubblici che guadagnano la metà di quello che guadagna lei, o delle persone che stanno senza lavoro, Piazzai? Che dobbiamo fare? Nessuno porta il computer, le penne e quant'altro. Ma il vostro è un lavoro particolare, adesso dobbiamo aprire questo capitolo, che il vostro è un lavoro artistico particolare, che non è un lavoro come tutti gli altri, non credo, questo lo do per scontato. Dopodiché, Piazzai, noi ci siamo conosciuti oggi, è stato un piacere, abbiamo discusso tranquillamente, era giusto aprire una finestra su questo, dobbiamo fermarci, dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Grazie e comunque in bocca al lupo, perché questo naturalmente è importante per la sua carriera, ma anche per tutti noi. Bocca al lupo. Buongiorno. Non ha detto crepi, è rimasto male, ma non è che io ce l'ho con lui. Credo però che se uno fa quel lavoro lì e usa un violino particolare, fa un investimento, è suo il violino, poi lo rivende, che dobbiamo fare? No, che c'entra però, è uno strumento di lavoro, perché con quel violino lì lui suona all'interno di un'orchestra e questa orchestra, la gente compra il biglietto e paga all'orchestra, alla fondazione, paga, quindi è giustissimo. I cittadini pagano, ricordiamoci di questo, cittadini pagano. La differenza è che è un lavoro artistico, diventa molto difficile trattarlo con le regole sindacali. Appunto. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. A me dispiace per il signor Piazzai, perché di fatto poi parliamo con una persona che rischia di perdere il posto di lavoro, poi vedremo, magari lo recupererà. Sicuramente nella gestione delle fondazioni liriche, di questo io gli ho dato atto, c'è un problema manageriale di produttività, nel senso che sono gestite non dalle maestranze, dagli orchestrali, magari male, non come in altre capitali europee dove si produce di più, quindi si incassa anche di più, e questo non possono pagarlo i singoli lavoratori. Però questo è il classico caso in cui piccoli privilegi o magari anche grandi, che venivano passati sotto silenzio, nessuno se ne accorgeva, adesso messi sotto la luce dei riflettori appaiono inaccettabili. L'indennità di umidità, l'indennità di sinfonia. Sì, però le indennità in realtà 60 ce l'hanno anche un sacco di medio, dipendenti pubblici, fanno tutti ridere, hanno l'indennità perché consumano i pantaloni, si stanno seduti. Però sì, ma non è una questione di indennità qui, è una questione di sindacalizzazione all'interno di un meccanismo artistico, che quindi diventa molto difficile. Infatti ero curioso di capire la questione del consorzio, perché in realtà riesce non ha voluto difficile parlarne, perché dice che non esiste questa cosa. No, che riesce difficile capire come in realtà un orchestrale valga un altro, nel senso è brutto da dire, però per un certo tipo di lavori hai la sensazione che hai bisogno semplicemente della forza lavoro, ma questa orchestra qua, che a detta di Muti è la migliore orchestra al mondo per fare la lirica, non è indifferente. Se tu dici guardi, purtroppo il primo violino che viene di solito non può, però viene mio cugino che suona il violino abbastanza bene. Perché dovrebbe accadere questo, scusa, se passa alla forma cooperativa? Sarà la cooperativa a doversi tutelare per avere poi contratti con l'opera, altrimenti esatto. Però quello che lui stava dicendo era: noi non abbiamo più la certezza del posto, perché evidentemente la cooperativa può sostituire i propri orchestrali, se no non cambia niente. Se comunque rimangono loro, sono gli stessi 182, devono prenderli tutti, che cosa cambia? Cambia la forma contrattuale. Cambia che il teatro fa un contratto con la cooperativa pagando un forfè che sarà più basso di quello che costava prima. Ma allora perché non gliel'hanno neanche proposto una riduzione dello stipendio. Infatti a me quello che mi ha incuriosito, perché uno dice: signori, voi costate troppo, vi diamo il 20% in meno, ma non gli è neanche stata proposta questa opportunità. Intanto abbiamo un problema oggi, perché Radio 24 non si sente. Infatti è bello, perché possiamo dire qualunque cosa. Infatti adesso per esempio, dirò il tuo numero di telefono, Alessio. No, è vero, è quello che sta succedendo in molte parti d'Italia, ce lo stanno segnalando gli ascoltatori. Adesso sentiamo anche qualcuno. Ma come mai? Siamo sotto attacco? Cosa sta succedendo? Non lo so. Intanto si sente su internet, quindi se qualcuno magari ci sta sentendo male e vuol sentire meglio, ma può già andare è domenica su internet. Mattina. Diamo questo suggerimento. È già domenica mattina, ti pare che uno deve anche accendere il computer, sentirlo su internet, via telefonino. Per sentire noi questo è da altro, dai. Va bene. Fernando da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ovviamente ho chiamato per dire che non si sentiva. Perfetto, ma ci sente? Ah, così ci sente al telefono. Ci sente al telefono. Chiamateci tutti. Al telefono. Ma non si sentiva proprio zero, assolutamente. Zero, si sentivano dei rumori di un fruscio da circa verso le 9. Io sento. Sì, anche prima forse. Senta, no, facendo la doccia, quindi di colpo è andata via la voce. Guardi, Fernando, allora 9 meno un quarto. Sì, mi dica. No, visto che lei ha chiamato, è l'unico ascoltatore con cui possiamo giocare, per esempio, al personaggio della settimana. Giochiamo solo con lui. È l'unico che ci ascolta. Le diamo l'indizio, perché lei non avrà sentito se la radio non l'ha potuta ascoltare, e vediamo se così su due piedi indovina e vince biglietti per la mostra di Chagall. L'indizio è che il personaggio è un personaggio che divide, un personaggio di questa settimana. Le diamo qualche secondo di tempo per riflettere. Potrebbe essere in ambito politico Fitto? No, non Fitto. Divide. Fitto. Oh, divide, un'ottima risposta, bravo. Però il personaggio non è lui, poi l'abbiamo presa così alla sprovvista, fuori dalla doccia, che non è neanche riuscito a sentire la trasmissione, quindi per il momento è sicuramente la migliore risposta che abbiamo avuto. Okay. Grazie, quindi, se nessuno dovesse... L'unica è difficile che sia la peggiore. Esatto. No, potrebbe essere che la peggiore, per carità. L'unica è la peggiore, sarebbe sia la peggiore che la migliore. In questo momento direi che non è il personaggio giusto, ma se nessun altro dovesse chiamarci, visto che non si sente la radio, vincerebbe lei con un unico obbligo, che deve andarci insieme a Fitto a vedere la mostra di Chagall, ovviamente. Terribile. Io sono liberale, non posso andare con Fitto o con qualcuno di lì. No, guardi, è una cosa. Sarebbe no, troppo. Sto svicolando, sto passando un altro argomento che non so se è di attualità. Prego, dica. È una cosa incredibile. Io l'ultima volta che ho votato è stato per, ovviamente, indovini, per chi? per Monti, per Monti, poi basta, perché non è che siete in tanti, cioè è una mosca bianca per Monti. No, eravamo in tanti. A Monti perché... dopo, nel senso, perché Monti ma è, come è diventato tanti? Presidente del Consiglio senza nessuna elezione. Poi ma dopo come eravate sono tanti? State... Ha preso il 3% Monti. Lo so, caro, ma eravamo in tanti a credere in lui. Vabbè, poi a votarlo in pochi. Vabbè, Fernando, però adesso che dobbiamo ripercorrere le storie del suo voto, no. È d'altro del nostro unico ascoltatore, Alessio. Ma ce n'abbiamo un altro, Ah, abbiamo un altro che riesce ad ascoltarci. Silvana da Genova. Intanto salutiamo Fernando. Silvana, buongiorno. E tanti auguri. Buongiorno. Tanti auguri a Radio 24. Grazie. Che ci forniscono delle grandi informazioni, veramente. Ma lei la sente la radio? No, è per quello che avevo chiamato. È perché abbiamo deciso di festeggiare in questo modo strano, rendendoci inascoltabili. infatti incuriosite parecchio, perché non sento più niente dopo. Non ho neanche il PC, quindi non ma ho quindi proprio niente sulla normale frequenza a Genova. Sto sentendo adesso per telefono. Facciamo una chiamata collettiva, chiamateci tutti da tutta Italia, ve la raccontiamo ma al telefono. Facciamo, scusi Silvana, facciamo anche con lei l'esperimento che abbiamo fatto con Fernando, visto che lei non avrà potuto sentire l'indizio che abbiamo dato per il personaggio della settimana. Se glielo diamo adesso, lei ci pensa un attimo e vediamo se magari trova la risposta giusta. Noi stiamo cercando un personaggio che divide, questo è il primo indizio, il personaggio che divide, e se lei indovina vince biglietti per la mostra di Chagall. Se ha, se ci vuole un pensare, un personaggio che divide, ma sì, mi scusi, l'argomento, cioè che cos'è? È molto ampio. È il primo indizio questo. Noi cerchiamo sempre un personaggio che diciamo che ha una notizia legata a lui, a lei, settimana. È legato in questa settimana. Lo so come e che in qualche modo divide. Ci pensi un po', vediamo. Ma c'è un sacco di tempo, perché qui intanto io leggo a Monza non si sente, a Modena non si sente, ovunque non si sente, Cuneo, Mondovì non si sente. Silvana non ha idee, va bene Silvana, no, non vuole sparare così un nome a caso, un nome a caso, magari azzecca e vince i biglietti. Un nome a caso. Non me ne viene mezzo che divida. Ma anche che non divida. Allora ne dica uno che non divide, che mi sembra anche interessante. Chi è che non divide? Niente, Silvana è rimasta così, senza parole. Vabbè, ha detto Berlusconi. Va bene, Berlusconi va bene per qualunque domanda. Che però non era la risposta corretta. Grazie Silvana, grazie, buona giornata da Genova. Auguri ancora, salve. Grazie. Forse continuare a farci auguri porta sfortuna, che dici? In questa teatro, per esempio, non si fanno mai gli auguri. E così abbiamo chiuso diciamo. Il cerchio, gli auguri, esatto, il teatro, di cui abbiamo parlato. La lirica, basta, le superstizioni finita. E la radio chiusa. Noi continuiamo a parlare, non so chi ci ascolta, ma intanto facciamo il traffico, vai. Si può fare cronache da un paese migliore. Un rene un po' strano, dilatato quanto l'ano, che per guadagnar sollievo ti darà un odore strano, ma non quanto lo straniero, che indeggenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato, come un bimbo che non nato, dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere e la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo no. Poi giunse il tennista e fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che a nessuno augurerei. Voglia di andar via mi condusse alla follia, mentre crebbe in me un po' di xenofobia. Mamma mia, questo è l'ospedale, c'è chi scende, c'è chi Gabardini sale. Sei mai andato a farti curare all'estero? A farmi curare di proposito all'estero? Assolutamente no. Beh, insomma, non è una cosa da tutti, certo. No. Ma poi io ho paura di tutti gli ospedali, figurati andare in un posto dove non posso parlare con la mia lingua. Ho paura pure di volare io. No, ma in generale, cioè, io sono uno che fa 52.000 domande, se devo anche parlare in un'altra lingua avrei veramente grossissime difficoltà. È una delle nuove tendenze di questa epoca che stiamo vivendo, il turismo medico, sanitario, cioè gente che si sposta per andarsi a curare, magari in posti dove da una parte ci sono attese di cure migliori, ma soprattutto attese di spesa minori. Ed è quello che noi vediamo, per esempio, in alcune pubblicità in Italia, che ti invitano, non so, a curarti i denti all'estero. È molto i denti, devo dire. Perché è una cosa molto costosa. Sì, però, siccome sanità italiana non è da buttare via, evidentemente qualcuno ha pensato di fare il contrario e di creare quindi un tour operator per portare i stranieri a curarsi in Italia. E noi questa la vogliamo leggere come una buona notizia. Ne parliamo con Francesco Martelli, che è fondatore dell'Istituto di Ricerca Microdentisti. credo che si dica così. Sì. Buongiorno Martelli. Buongiorno, buongiorno e buon compleanno da 24. Grazie. Va bene. Senta, noi leggendo... che stiamo tornando, tra l'altro, pare in onda, che stiamo tornando, tranquillizziamo, sì. Che poi è inutile tranquillizzare, perché chi ci sente ci sente, chi non ci sente non viene tranquillizzato, sì, quindi. Sì. Allora, sappia chi ci sta di nuovo ascoltando che vi tranquillizziamo perché prima non ci sentivate. Ecco, non so se ho fatto abbastanza più casino di prima. Quando abbiamo letto la notizia, Martelli, il tour operator, operator contro la fuga dei pazienti, ci è sembrata una buona notizia, però adesso è tutto da dimostrare. Lei... Sì, non è esattamente un tour operator, ecco. È un'associazione per la promozione del turismo medico verso l'Italia, in ICAM. Quanti Quindi siete? IAMT, Italian Association for Medical Tourism. Quanti siete in questa associazione? Solo l'abbiamo lei? Appena costituita? Sì. L'abbiamo appena costituita, ma abbiamo già partecipato a un evento importantissimo, sì, che è il forum mondiale di Washington. Quest'anno si è tenuto a Washington, dove si riuniscono e si incontrano tutti gli operatori del settore. Quindi sia per quanto riguarda l'offerta, quindi le aziende sanitarie piuttosto che le cliniche, piuttosto che quelli come noi che hanno da offrire un trattamento particolare, ecco, che è quello sulla parodontite. Esatto. Ci spieghi come funziona. Ci dica perché, intanto, perché noi italiani che ci buttiamo sempre giù molto facilmente, non sappiamo di avere un sistema sanitario buono nel mondo, invece ce l'abbiamo, io ne sono convinto. Ci dica lei perché invece così si può creare del turismo sanitario verso l'Italia. Perché? Guardi, noi abbiamo avuto questa esperienza nel momento in cui, dopo aver verificato che i pazienti si spostavano da tutta Italia verso Firenze, quando abbiamo creato una rete di sedi in altre città, abbiamo avuto un income di pazienti dalla Svizzera. E se il paziente mi si sposta da Zurigo per venire a Milano a farsi curare la parodontite, quando la Svizzera è considerata nell'immaginario collettivo in tutto il mondo il paese per eccellenza per le cure mediche, allora vuol dire che qualcosa in più anche noi italiani possiamo dare, che è una realtà questa non presente solo in ambito privato, ma anche in ambito pubblico. Ma si sposta, quindi, ma si sposta per che motivo quello da Zurigo? Per un motivo economico, per un motivo perché si fida di più, perché le cure sono migliori? No, perché offriamo una soluzione diversa a quella di togliere i denti per mettere degli impianti, e quindi questa soluzione diversa spesso poi intercetta anche pazienti che andrebbero all'estero, in Croazia, gli italiani per esempio, sì, a eseguire terapie tradizionalmente considerate low cost, ma che poi non lo sono. Quindi spesso noi abbiamo visto pazienti che non si sono fatti trattare in Croazia o in Slovenia, sì, e che sono rimasti in Italia non solo per la proposta terapeutica diversa, ma anche perché economicamente i conti tornavano, perché c'era tutta un'offerta. Senta, mi dica un'ultima cosa, ma questa vostra proposta, diciamo, di turismo sanitario verso l'Italia, medico verso l'Italia, riguarda solo cose dentistiche o più in generale anche altre prestazioni sanitarie? No, assolutamente no, vuole mettere assieme nell'associazione tutti i possibili players, tutti i possibili soggetti interessati. Ma se lei, dovesse mettere la sanità italiana in una classifica, no? Visto che avete partecipato anche a un convegno a Washington, insomma, lei bazzica la scena internazionale, che posizione darebbe alla sanità italiana? Tra le prime, nel mezzo, in fondo? Fra le prime tre a livello mondiale. Il problema è che non abbiamo gli strumenti, anzi abbiamo solo difficoltà per promuovere le nostre eccellenze. Insomma, voi ci state lavorando su questo e noi vi facciamo i complimenti, perché mi sembra comunque una buona iniziativa. La salutiamo qua, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata, in bocca al lupo. Abbiamo il giornale radio, problemi di frequenze che però si stanno risolvendo. Si stanno risolvendo, direi, perché è molto bello vedere a Pescara vi si sente, a Pisa ora si sente, a Udine ora vi si sente, Buondì vi si sente, okay, Piacenza vi sente. Allora sentiamo anche Laura da Bolzano, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Niente, volevo confermare che purtroppo è andata via la linea, però io vi sento per fortuna sull'iPad. Però sta tornando, mi dicono che sta tornando. Però qui siamo in alta montagna, quindi per niente. Cui probabilmente ci mette un pochettino in più. Senta, Laura, lei aveva chiamato arriva solo la trasmissione di ieri, adesso con calma arriva quella di sabato. Lei aveva chiamato solo questo o voleva dire anche qualcos'altro? No, volevo abbiamo volevo 30 rispondere secondi. Per il gioco, per i personaggi della settimana, che io penso sia della Valle. Perché? È perché divide, perché diciamo così, abbiamo tante speranze nel governo Renzi, però della Valle ci ha fatto anche capire che qui ora ci vogliono dei fatti. Ha messo un po' di pepe, sì, ha messo un po' di zizzania. Sì. Va bene, Arizio. Però non era lui, non era lui. Non ci era poteva lui, stare come personaggio molto. Che divide, ma non era lui. Grazie Laura da Bolzano. 800 24 00 24, un personaggio che divide. Dopo il giornale radio daremo anche un altro indizio, così magari recuperiamo il ritardo di prima, con le frequenze. Giusto, giustissimo. Nulla. A dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Gabardini balla come al solito. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. È il vero momento in cui mi sveglio, questo alle 10, quando parte la musica. La musica, Maroon 5, Maps. Alle 7:30 vengo dormendo in motorino, se posso dirlo. Virginia Russo, ascoltateci, che ci segnala questa canzone. Continuate a segnalarci le vostre canzoni, il vostro Si può fare musica su Facebook, Si può fare Tatino Radio 24, su Twitter, @ Si può fare 24, e noi le manderemo in onda il sabato. Oppure sui nostri account di Twitter, il mio che è @Carlo Gabardini. Il mio è tale Maurizi. Allora, cari ascoltatori, intanto la radio è tornata a farsi sentire, perché abbiamo avuto un blackout questa mattina di una mezz'oretta. Per festeggiare i nostri 15 anni abbiamo deciso di festeggiarlo, diciamo, in assenza, dicendo quanto vi siamo mancati. E fare una cosa anche originale. Esatto, diversa. Potete anche chiamarci per dirci quanto vi siamo mancati. Che ho in visto soprattutto mezz'ora a Pescara, Piacenza, Udine, che siamo tornati con la radio. Ridiciamo allora che stiamo anche cercando un personaggio della settimana all'800 24 00 24, che sia un personaggio che divide e che ci sia come sempre una notizia. Questo è il primo indizio di questa settimana. E do il secondo indizio. Aspetta, sentiamo qualcuno. Non va bene. Cerchiamo di non essere troppo buoni, vabbè che c'è stato il blackout, insomma, però troppo buono, è il nostro compleanno. Mariella da Lodi, buongiorno. Mariella? Buongiorno. Buongiorno Mariella. Se può spegnere la radio ed ascoltarci, no, per telefono, non, è non meglio. Non spengo la radio perché al telefono non vi sento più. Come non ci sente più? È un problema, no, se non ci sente per telefono, perché dovremmo parlare per telefono, Mariella. No. Ci deve sentire solo al telefono e non in radio, perché sennò noi sentiamo le cazzate che diciamo nella sua radio un secondo dopo. Proviamo Mariella, anche vediamo se funziona. Proviamo, parli, dica quello che voleva dire, vediamo. Allora, secondo me è Papa Francesco. Che sentiamo anche l'eco, lei che dice Papa Francesco e poi si sente l'eco, sembra di essere in San Pietro, diciamo, ed è giusto, è domenica, sentiamo l'eco, per Papa Francesco è perfetto. Ma qual è la notizia legata a Papa Francesco di questa settimana? Perché il cardinal Scola e il cardinal Tettamanzi non sono d'accordo sul suo atteggiamento, sulla sua posizione sui divorziati risposati. Va bene, c'è il sinodo, perfetto, che si apre, esatto, oggi, tra l'altro, sulla famiglia, quindi il tema c'è, la notizia c'è, il personaggio pure, ma non era lui. Non era lui, quindi ci spiace. Grazie Mariella. Comunque è un'antica regola quella che bisogna spegnere la radio. La prima volta che sento l'ascoltatrice che dice no, io non la spengo perché ho bisogno di sentire così, delle cose. Gli è presa così. E sentiamo un po' bello. Invece se Davide da Vimercate è più, diciamo, disciplinato. Davide? Sì, io vi sento in streaming. Perfetto. Allora spenga il fax, non so. Vi sento dal fax. Perfetto. Quindi io volevo farei un piccolo intervento a proposito dell'orchestrale. Sì, sì. Che ha parlato prima rappresentando il primo trombone. Il primo trombone, quindi. No, vabbè, non è, e quindi sicuramente un artista. Semplicemente banale, considerazione banale, però la guerra non si fa in due. Qua stiamo trattando di antichi privilegi. Poi lo stesso Muti, cioè, non vorrei, perdonatemi se non dico, non è anche senatore a vita, per cui fa due lavori, per cui ci vi ricordate un po' la polemica sui politici e quant'altro. Franceschini in passato si era distinto anche per alcune Però d'altronde che cosa deve fare? Non è che può preferirebbe che facesse solo il senatore a vita? No, ma si parla di privilegi, si parla di doppi lavori, si parla di quant'altro, quindi allora probabilmente l'orchestrale aveva innegabilmente dei privilegi legati a indennità più o meno, a parte sì, che un'indennità di 50 euro sullo strumento, se solo si fa un'assicurazione si è mangiata, però vabbè, 190 euro, quindi comunque l'altro fa un doppio lavoro. Permettetemi che Franceschini, per alcune proposte che ha fatto in passato nell'ambito dello spettacolo, che mi avevano lasciato perplesso, tipo le forme lavorative, forme di lavoro non retribuito, a costo zero, adesso non vorrei sbagliarmi con... No, va bene, c'è stata una questione su Franceschini, vabbè, però questo non è adesso il punto. Qui si tratta di una selva di privilegi che contrastano l'uno con l'altro e chi ci smena sono sempre i lavoratori. Forse è la parte più debole, quando si scontrano tutta una serie di poteri e di privilegi. Banalmente, una considerazione della persona di strato. Certo, è un punto di vista che ci sta, naturalmente, è quello che pensa la maggior parte dei cittadini. Dopodiché, Davide, lei voleva dire anche qualcos'altro o ci salutiamo qua? No, adesso ho preso la linea. Civati era il mio personaggio, ma divide da un po', ma non mi viene in mente un fatto. Civati. Beh, perché è in mezzo alla sinistra, divide un po'. Ma lei sta dicendo che il personaggio... Scusi Davide, cerchiamo il di fare le cose... Il personaggio è Landini. Sta dicendo? Qual è il personaggio, Civati o Landini? Perché... Civati, pardon. Qual è la notizia legata a Civati di questa settimana? Diciamo che... storicamente ha sempre diviso in questo momento. No, va bene, il fatto che divide va bene, ma qual è la notizia? Qual è la notizia legata a Civati questa settimana? Vabbè, c'è stata la manifestazione ieri, però lo diciamo subito, sì, non è Civati, così diamo spazio anche agli altri ascoltatori. Esatto. Grazie Davide, buona giornata, perché ne abbiamo molti, dobbiamo recuperare, siamo stati un'ora non ascoltati, quindi vediamo un po'. Maria Gabriella da Savona, buongiorno. Posso? Sì, certo. Intanto anch'io mi associo agli auguri di compleanno. Grazie mille. Allora, personaggio secondo me De Magistris. Beh, insomma, la notizia c'è. La notizia è anche che divide. Però non è lui, Maria Gabriella, lo diciamo subito, non è lui. Grazie mille, buona domenica. A questo punto diamo soddisfazione a Gabardini e aggiungiamo un altro indizio. A questo punto è doveroso. Allora, il nostro nuovo indizio è che è un vecchio barzellettiere. Personaggio che divide, nonché un vecchio barzellettiere. 00240024, andiamo sul traffico. Non c'è il traffico. Non c'è traffico ed è una bellissima notizia. Non si può fare, è assolutamente inedito. Non c'è traffico, signori. Con Gianluca da Macerata. Buongiorno Gianluca. Salve, buongiorno. Buongiorno. Dunque, intervenivo sugli orchestrali. Sì. È sempre molto antipatico quando si parla tra noi lavoratori. Però ecco, io faccio un lavoro. Dica. No, dico, si parla sempre fra lavoratori. Prego. No, ecco, perché qui si rischia di andare uno contro l'altro, no? E questo volevo dire sull'antipatico. Dipende quello che vuole dire. Ecco, dunque, allora, io faccio un lavoro dove, siccome l'orchestrale diceva chi è il lavoratore che si porta gli strumenti del lavoro da casa? Beh, ce n'è tanti, c'è chi si porta la macchina. Sì. La macchina, io per esempio dal 91 la mia azienda faccio l'agente di commercio, dovetti comprare... un vecchio computer portatile, costava una cifra che poi poco dopo già non valeva più nulla, ma ancora da tantissimi anni ognuno di noi si deve aggiornare a spese certo. proprie. E se lo pagò lei il computer e nessuno le diede nessuna indennità, sta dicendo? Assolutamente, se non lo compravi rimanevi indietro e venivi tagliato fuori. Certo. Parliamo di un computer che era grande tipo un frigorifero portatile, ecco. Altri tempi, non proprio l'altro ieri, diciamo. Anno, tempo un anno con la valigetta di pelle, così non so se lei se lo ricorda. Certo, più che un portatile, ecco, direi un trasportabile, così. Sì, esatto, sopra c'era una stampantina, ma tempo un anno già non valeva più nulla e lo pagai 4 milioni e mezzo, più IVA, una cosa del genere. Quindi lei giustamente sta dicendo: non sono gli orchestrali gli unici che si portano da casa gli strumenti. Grazie, è vero, Gianluca. Che solitamente, però, è una roba che io ricordo che quando ho girato un film con Dario Argento, mi ricordo che in questo film io usavo una sciarpa che aveva visto Dario Argento e aveva detto: no, devi assolutamente tenere quella sciarpa lì, usa la tua sciarpa. E la costumista mi disse: è l'unica cosa che possiamo fare, non lo so, se tu vuoi, noi paghiamo il noleggio della sciarpa. Io, ovviamente, ho detto: ma no, ma chi se ne frega, uso la mia sciarpa. Fantastico. Però effettivamente, il noleggio della sciarpa. Effettivamente, ma c'è un problema. È un problema perché per un semplicissimo fatto che se la sciarpa succede qualche cosa, cioè se loro ti pagano un noleggio, in qualche modo la sciarpa è anche assicurata. Poi era una sciarpa alla quale tenevo molto perché l'aveva fatta mia mamma, ce l'ho tuttora, è l'unica sciarpa che ho, è la mia sciarpa colorata con la quale bellissimo. Vengo in radio tutto l'inverno. Tra l'altro è bellissima, ne voglio una anch'io. Facciamo un appello alla mamma di Gabardini. Intanto ci sentiamo il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Questo è il momento nel quale parliamo di futuro e che sarà e ne parliamo con Massimo Temporelli, che oggi è in studio con noi. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Ciao Massimo. Fisico, scrittore, divulgatore, presidente di The Fab Lab Make in Milano, che è? Ricordacelo. Che è un Fab Lab in via Santa Marta, siamo incubati dalla società. Brutta parola, questa. Sì. Però, insomma, il nostro incubatore si dice così. Ma bellissimo, lo dico perché il nome è bellissimo: Società Incoraggiamento Arti e Mestieri. Bellissimo. Della metà dell'Ottocento. Questo è bellissimo. Ed sì. È un luogo straordinario. Cioè, è un incubatore della metà dell'Ottocento? Di fatto sì, perché è nato il Politecnico di Milano. È lì. Il primo incubatore al mondo, sì. Direi che possiamo vantarci. L'artesignano. Beh, ma in Italia abbiamo grandi, grandi tradizioni, questa è una delle tante. E noi siamo lieti di essere lì perché hanno sempre formato i tecnici, gli ingegneri, e adesso noi cerchiamo insieme a loro di formare appunto gli artigiani del futuro, no? Questi makers di cui parliamo oggi. Si parla molto di innovazione, di futuro, di start-up, di nuovi mestieri. A volte non dico che se ne parla a sproposito, però si sentono raccontare cose mirabolanti che poi uno dice: ma avranno delle basi solide, accadranno queste cose, poi vai a spulciare, magari non c'è sostanza. Noi invece qua cerchiamo proprio la ciccia, la sostanza. Tanto cerchiamo la ciccia, giustamente, che l'abbiamo voluto invitare qua perché siccome carne e ossa. Lui, esatto, l'altra volta parlavamo al telefono di stampanti 3D, di possibilità, quindi non siamo nemmeno sicuri che sia qua veramente, che non sia un ologramma in questo momento. Sono altrove. Quindi siamo molto contenti di vederlo, diciamo, un fisico dal vivo, fisicamente un fisico. Fisicamente un fisico. Al mio fianco ci sono degli oggetti. Adesso li postiamo anche sulla pagina Facebook di Si Può Fare, che escono da una stampante in 3D. Massimo, intanto così, giusto per dire, che oggetti sono? Beh, sono oggetti molto semplici perché sono stampati con macchine molto semplici. A noi piace veramente mostrare le potenzialità di macchine che possono permettersi tutti. Tenete conto che gli oggetti che vedete qua sono stati stampati con una macchina. Dobbiamo raccontarli perché purtroppo vede molto poco in radio. Ci sono dei giocattoli, ci sono degli strumenti. Abbiamo un bellissimo bullone che sarà, diciamo, alto 10 centimetri, un bullone che sembra di quelli, di quelli industriali delle ferrovie, diciamo. Sì, però è di plastica, ma funziona. Funziona. Io con quelle chiavi inglesi, con quei bulloni fai delle cose. Assolutamente sì. E dovete vederlo Massimo all'azione, perché lui proprio smonta il tostapane, prende la resistenza, la collega con un filo, fa una cosa che ne stampa uno nuovo. Fa delle cose. Io stamperei direttamente il toast, e a quel punto ti sei stampato un bel toast in poliestere. Si può stampare e via. Toast. No, sì, non si può stampare. Ci stanno provando naturalmente. Hanno stampato una bistecca è costata $300,000 mi sembra, però è mangiabile. Cioè, invece del toner metti una mucca? Invece esatto. Della plastica o di tutti i materiali che oggi si possono stampare, magari dopo entriamo nel dettaglio, si possono anche stampare gli alimenti e mangiarli. È chiaro che adesso i prezzi sono esorbitanti. Però è stata di prototipi assolutamente. Quant'è che viene la bistecca? È costata $300,000. Beh, spero che sia almeno un filetto, perché pensa se paghi $300,000 invece poi ti capita, non so, una roba, un taglio inutile. Allora, una cosa che forse molti non hanno capito è che cos'è il vero, diciamo, scatto in avanti che fa fare questo sistema delle stampanti in 3D. Cioè, ci consente di fare, di stampare degli oggetti. Io dici, sì, ho capito, per gioco, per diletto, poco più, sì, posso montarmi la casetta delle vacanze. In realtà ci permette di fare dei prototipi, cioè di fare che cosa, Massimo? Allora, dipende molto appunto da chi sei. Allora, partiamo dai consumer. Se tu sei una persona che a casa, io faccio sempre l'esempio della lavastoviglie perché è classico, no? Perdi l'ingranaggino che ti fa scorrere bene il cestello all'interno della lavastoviglie. Quello che io chiamerei pirlippo, però giustamente tu sei un fisico e lo chiami ingranaggino, va bene. Detto ciò, se quella parte la rompi, adesso dovresti chiamare l'assistenza e farti cambiare il pezzo, ecco. Immaginatevi quanti di questi eventi capitano quasi tutti i giorni, tutte le settimane in casa nostra. Ecco, lì banalmente uno potrebbe andare sulla casa produttrice, sul sito della casa produttrice, scaricare il file dell'oggetto mancante all'interno dell'elettrodomestico e stampartelo. Queste cose ci capitano tutti i giorni a The Fab Lab, quando arrivano le persone a cui gli si è rotta la stampante 2D, in questo caso gli manca l'ingranaggino, gli manca la cinghia, e noi gliela ristampiamo. Ma perdonami, questo, diciamo sostanzialmente stampando con una plastica, con le stampanti che usiamo noi, che sono entry level, vuol dire che con 700-800 euro te le compri oppure te le stampi da noi, che è la cosa più bella. Cioè, si può stampare la stampante? Noi stampiamo stampanti. Beh, cioè, questo è molto bello. Macchine che generano macchine. Infatti, ma sostanzialmente molto... quello che mi chiedo è che il pezzo poi è identico a quello che esce dalla fabbrica, perché anche il materiale è bene o male lo stesso, o è un oggetto che uno diciamo è come se fosse il ruotino della macchina? No, lo usa per un certo periodo finché non va a comprarsi veramente il pezzo di ricambio. Ah, o è quello il pezzo ricambio? È quello. Questo è un cambio epocale. Perché il materiale, l'ABS, il PLA, il nylon, il PET, quindi ho capito solo nylon per adesso, ma comunque l'ABS, se vuoi l'ABS è quello per frenare, no? No, sono i mattoncini famosi dei giocattoli che usiamo, ecco, li chiamo mattoncini, perdonami, sono io tra i due sono quello che gattona per terra con i mattoncini, tu sei il papà, quello che dice che... ti ho stampato il tuo ABS. Ma pensa a stampare i pezzi del Lego, però. Bravo, quello. Quante volte uno è la dice, prima attività che ho fatto? Un pezzo da tre, il famoso pezzo da tre bravo, del Lego, che non ce n'erano. Però ecco, scusate, fatemi dire una cosa, perché quello che mi sta a cuore è questo. Cioè, a cosa servono le stampe? Non per stampare oggetti, per divertirsi, ma a fare, per esempio, prototipi. Perché io ho capito questa cosa qua. Tu sei un designer, vuoi costruire qualcosa di nuovo, devi fare un prototipo, devi andare in un posto dove ti costa 50.000 euro. Vado da Massimo Temporelli a The Fab Lab Make in Milano e costa molto di meno perché usa la stampante in 3D e faccio il prototipo, cioè inizio il primo passo della mia nuova azienda, per esempio. Bravo. Se invece, lasciamo stare consumer, sei un designer, un ingegnere, un inventore, un imprenditore, puoi venire con la tua idea o puoi comprarti una stampante 3D e cominciare a realizzare l'oggetto che prima avrebbe impiegato appunto una filiera complessa, lunga, tra cui costosa, il modellista che ti tornisce il modello su cui viene presso fuso il pezzo di plastica che sarà la prima serie. Ecco, con la stampante 3D arrivi col tuo file digitale veramente banalissimo da generare, vi assicuro lo fanno i bambini, con dei modellatori 3D molto semplici. Chiaro che se il progetto è una complicato, turbina di un aereo, ci vuole un progetto. Noi sappiamo farlo, io e Carlo abbiamo già fatto un paio. Ricordiamo che comunque questa lunga filiera di cui stai parlando tu, il tornitore, in realtà sono tutti poi posti di lavoro, perché in realtà uno schiaccia, fa un bel click e ne nasceranno di nuovi, Ecco, come per esempio, gli stampatori di stampanti, per esempio. Stampatori di stampanti. Quali sono i mestieri che gireranno intorno e stanno già girando attorno per alimentare questa nuova filiera, si spera anche di lavoro, alle stampanti 3D? Sì, è un ecosistema, non è appunto soltanto lo stampatore 3D, ci sarà banalmente a Milano, già oggi, ci sono già 4-5 profili. Il venditore di stampanti 3D, ci stanno aprendo molti negozi, se voi andate in giro un po' per Milano li vedrete, e banalmente il commesso che deve vendere quella stampante non è un commesso normale, dovrà formarsi, si sta formando per vendere quelle stampanti. È un commesso stampato, direi. Sì, stampabile. Il tecnico che fa la manutenzione di queste macchine, chi le sa usare, chi sa disegnare il modello che andrà stampato, perché se la signora non trova sul catalogo della famosa marca degli elettrodomestici il pezzettino mancante, una persona dovrà ridisegnarglielo partendo dal vero. Chi fa la scansione 3D, anche lì, se non vuoi ridisegnare queste cuffie che indosso, puoi farne la scansione 3D, ti ottieni la matematica sul computer e quella cuffia la puoi ristampare. Usare quello scanner 3D non è come usare uno scanner scanner normale in cui metti sotto un foglio e stampi. Tutta la parte dei materiali, la chimica deve seguire la meccanica in questo momento e l'elettronica. Ma sarà tutto un mondo di plastica con le stampanti 3D? Saremo sommersi dalla plastica? No, il mio sogno, lo scrissi anche sul mio blog di The Fab Lab, è quello che noi arriveremo un giorno ad avere un tot di atomi alla nascita e ricicleremo sempre quello. Allora adesso le grandi aziende chimiche mi staranno mandando qualunque tipo quindi di parola. Quindi se tu vuoi stamparti delle cuffie prima devi tipo riscioglierti il tostapane. Bravo. Tu ti sciogli il tostapane. Bravo. E fai le cuffie. Un giorno. Molto... Ognuno ha un metro cubo di spazio da occupare su questa terra. Bravo. Un tot di atomi. Forma come vuole. Mi piacerebbe moltissimo che al giorno della tua nascita ti venga data una scatola con dentro tot atomi, migliaia, miliardi di atomi di materiali diversi, tu li combini insieme, tu, una volta diventa il tuo primo paio di scarpe, l'altra volta un paio di pantaloni. Beh, è un'idea bellissima questa, è un romanzo di Asimov perfetto. Scriviamolo. Assolutamente, lo scriviamo insieme. Atomi per la io vita. Io mi candolo, veramente. Massimo Temporelli sta anche, tra le varie cose, organizzando, studiando, mettendo in piedi, adesso non so fin quanto possiamo raccontare di un'iniziativa che è ancora in ballo, un festival dei lavori del futuro. In sostanza è questo, no? È un po' anche l'aggancio con cui noi ci siamo conosciuti. E di cosa si tratta? L'altra volta abbiamo parlato dei piloti di droni. Sì, il Future Job Festival è nato proprio dalla volontà di far riconoscere alle persone che incominciano questa strada verso le nuove professioni, a dire guardate che siamo in tanti, primo tra di noi, a dircelo tra di noi, e poi convincere gli altri a salire su questa nave che sta partendo, ormai si è staccata dal porto. Cioè siamo veramente in tanti, stampa 3D, Arduino o arduinisti, dronisti o pilota di droni, da non confondere con i tronisti. Arduinisti, raccontaceli. Arduinisti è un altro capitolo bellissimo, che sono queste schede programmabili open. Se è una roba che posso capire, che io sono stupido. Io ci ho provato, non ho ancora capito. La prossima volta ve lo porto. La prossima volta ce l'ha. Se volete ve ne parlo adesso, ma vi porto un'anticipazione, così un antipasto. Arduino è una scheda italiana, per fortuna si può fare, sì. Un'altra bella notizia, è nata a Ivrea e questa scheda ti permette, programmandola con linguaggi piuttosto semplici, di interagire col mondo, internet delle cose, no? Quindi se tu qui dentro. Vedo gabardina è un'espressione totalmente assente. Assente per niente. Sto cercando metti di che tu vuoi tirare giù le tapparelle di questo. Io ho paura questo... anche quando lui dice con una tecnologia piuttosto semplice, in quel piuttosto c'è un mondo. Il trucco. C'è no, il mondo non è vero, che non significa è vero. Tu Carlo non la capirai mai no, non questa è vero, cosa. Non è vero, non scusami, è vero e ve l'ho mostrato. Ti ho interrotto. Vai avanti. Quindi tu vuoi oggetti che vogliono comunicare. La stessa cosa che è successa per la stampa in 3D. Oggi puoi far dialogare il mondo degli atomi con l'informatica, quindi tu sul computer dici voglio spegnere le luci, oppure sotto questa luminosità si devono accendere le luci. Stiamo parlando di domotica diciamo? Banalmente, ma non solo, è internet delle cose meglio, perché fa parlare di dialogare. Però è più bello, se io dico domotica sembra che sono uno che ha studiato, se io dico internet delle cose sembra uno che sto zappando la terra. E questa cosa... fatta con Arduino, ripeto, scheda programmabile abbastanza semplicemente, ti permette di fare qualunque cosa tu voglia far fare alle macchine o agli automatismi. Banalmente, non so, ti finisce il frigo, il latte nel frigo, è divertente aprire il frigo e guardare se ce n'è ancora, però potrebbe esserci un sensore di peso che ti manda un messaggino mentre tu sei ancora in ufficio, ricordati che il peso del latte sotto il sensore che tu hai messo, che hai programmato con Arduino, segnala che sei sotto i 0,25. Sì, ma sono sotto i 0,25, interrompo il mio lavoro, prendo un permesso, vado al supermercato, compro del latte, corro a casa oppure, e zittisco Arduino. Oppure potrebbe mandarti il messaggino proprio quando sei vicino al supermercato. Certo. Senza romperti le scatole quando sei in ufficio o vicino a una mucca sarebbe vicino, ancora meglio. Perfetto. Senti, ma di cosa parliamo la settimana prossima? Sì. Così adesso allora, questo Future attimo, Job Festival che rimane il nostro fil rouge, appunto, così chiudiamo, si terrà a fine marzo a Grazzano Visconti, che è una cittadina nata per i mestieri, è di proprietà privata ma è visitabile da tutti, e all'interno delle vecchie botteghe di fine 800 e primi 900 rimetteremo tutti i nuovi mestieri. Se volete, dopo la stampante 3D possiamo parlare di questi arduinisti, di cosa si può fare con Arduino, se c'è qualcuno che già ci campa, perché questo è quello che mi interessa, e fare un po' il punto su questa elettronica open source di cui si parla ormai in tutto il mondo. Va bene, Massimo Temporelli resta intanto con noi, mentre ci ascoltiamo un paio di telefonate di ascoltatori che forse vogliono giocare con noi, forse vogliono commentare quello che hanno sentito. Silvia da Brescia, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao Silvia. Buongiorno. Io volevo provare a indovinare il personaggio misterioso. Prego, siamo tutti orecchi. potrebbe essere il vecchio Silvio, che di barzellette ne ha raccontate tante, fin troppe. Sì. E come divisione, perché vuole dividere Forza Italia fondando Forza Silvio. Ma questo lui l'ha smentito, se... sì. Però comunque che divida, c'è la notizia conflitto, diciamo, sul paese che divida, direi che è abbastanza. Sì, vi è caduta perfettamente nel tranello, era proprio pensato per dare questa risposta che non è quella giusta, che tra l'altro non c'è già stata, non c'è appena stata data qualcun altro, quindi però, ma forse era nel momento in cui non si sentiva la, esatto, radio. È giustificata perché la radio per un 10 minuti diciamo non siamo stati in onda. Matteo da Monza, buongiorno. Matteo, auguri. Grazie. Grazie, auguri. Intervengo per indovinare anch'io il personaggio. Il secondo indizio mi ha dato un po' da pensare, però dico Adriano Celentano. Ah. Adriano Celentano. Personaggio che divide il vecchio barzellettiere. La notizia è quella? Della richiesta di grazia per Fabrizio Corona. Poteva anche esserci, anche se forse è ancora della settimana indietro. Cioè, Celentano ha fatto richiesta di grazia per Corona? Sì, sì. Però non è lui. Però non è lui. Nonostante questo, non è lui. Grazie, Matteo. Grazie, grazie mille. Facciamo, aggiungiamo un indizio, aspettiamo, facciamo. Ma aggiungilo, è domenica. No, diamolo dopo la pausa. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, 800 24 00 24. Potete intervenire in diretta, colmare così anche le lacune della prima mezz'ora di programma quando non eravamo in onda, perché Radio 24 ha avuto un piccolo blackout. Non sappiamo se in tutta Italia, però insomma, diciamo, in molte città non ci si sentiva. Eccolo. Allora, diamo anche un altro indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana. Riepiloghiamo. Il nostro personaggio è qualcuno che divide, è un vecchio barzellettiere ed è anche un capitano. Oh, vabbè, qua ci stiamo avvicinando, ci stiamo allargando, direi. Adesso parliamo di banda larga. Non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. Voglio un panino gigante con dentro un milione di cose. Voglio Madonna per portarmela a letto e poi mandarle un milione di rose. Voglio una vasca piena di Coca-Cola e mentre nuoto voglio bere e abbronzarmi. Voglio telefonare al presidente americano e al telefono voglio sfogarmi. Voglio un aereo, che dico una nave, che dico uno sciatto, un sottomarino. Voglio sposarmi con mille ragazze e per ognuna io voglio un bambino. E voglio un casco di panna montata, me lo voglio poi mettere in testa e poi mangiare la panna montata, mangiarla tutta fin quanta ne resta. Voglio essere magro, coi muscoli in mostra, voglio vestiti di tutti i stili e voglio vincere l'Oscar e il Telegatto, il leone dei premi mai visti. E non mi basta mai, non mi basta mai, non mi basta mai. E non basta mai la banda larga in Italia, non basta mai, ce ne vuole sempre di più, non so esattamente a quale punto del percorso che l'Italia dovrebbe compiere siamo, lo chiediamo a Giulio Cupini, che è ideatore della petizione che trovate online da tutte le parti, soprattutto su Twitter, l'hashtag è più banda larga. Buongiorno Cupini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ora, noi non siamo esattamente dei tecnici della materia, sappiamo che la banda larga è uno strumento fondamentale per vivere, per lavorare ai nostri tempi, sappiamo che se ne sta parlando da tempo in Italia, ma che... Da tantissimo tempo, tantissimo direi. Tempo, insomma. Ma che cosa c'è che non va ancora? Perché avete rilanciato questa campagna adesso? Ma quello che non va è che se ne parla poco, nel senso che le necessità in termini tecnici sono tante, proprio dal punto di vista infrastrutturale, però quello che manca è un po' la discussione che dovrebbe accompagnare questa crescita tecnica, nel senso che poi le persone con una richiesta di servizi possono aiutare anche le società private a crescere, ad investire. Se chiaramente poi in Italia si guarda soltanto a Facebook, a Twitter, magari già può funzionare quello che c'è. Il problema è che negli altri paesi internet comincia ad essere utilizzato per altre cose e serve un'infrastruttura più importante. Ma quindi secondo lei bisognerebbe parlarne di più? Assolutamente, nel senso che diciamo, lo scopo dell'iniziativa, oltre chiaramente a voler arrivare arrivare al Parlamento, al Ministro Guidi, è quello proprio di attivare un dibattito, cercare proprio di far ragionare le persone sul fatto che adesso i cambiamenti avvengono nell'arco di 6 mesi, no? Io un esempio faccio sempre, quello del percorso per arrivare a Parigi. Se tu sei Giulio Cesare, ci mettevi tot tempo, sei Napoleone, 2000 anni dopo ci metti ancora lo stesso tempo, tra Napoleone e Mussolini ad esempio pochi anni dopo tutto è cambiato. Questi tempi, sì, non sono esattamente 6 mesi quelli, comunque, esatto, da Napoleone a Mussolini. E nel tempo di comprensione, diciamo, che l'umanità ha sempre avuto per le nuove tecnologie si sta sempre stringendo di più, ed è importante che il pensiero, la discussione possa accompagnare questo cambiamento. Ecco, ma voi dite che in Italia la diffusione della banda larga è ancora al di sotto del 50% di quella che dovrebbe essere invece il totale, la capacità di penetrazione. Sì. E questo, esatto, è un punto di partenza. Quindi, insomma... Esatto, è un punto di partenza importante, perché chiaramente ci permette di capire che la penetrazione negli altri paesi siamo circa al 68%, in termini di anche adesione delle aziende a questo tipo di attività, siamo quasi al doppio negli altri paesi rispetto all'Italia. Come mai da noi siamo solo al 50%? Cioè, se ci spiega in termini semplici. Ma siamo sotto il 50% perché l'Italia è un paese, diciamo, geograficamente complesso da coprire, nel senso che le infrastrutture anche proprio della parte telefonica in alcune zone d'Italia, banalmente anche nella periferia di Roma dove mi trovo io, sono fortemente depotenziate, per cui andare a fare un aggiornamento ampliando anche i servizi internet diventa particolarmente complesso. Aggiungiamo a questo il fatto che comunque il divario nord-sud c'è ed è importante anche nelle telecomunicazioni, il divario, diciamo, si riflette anche negli investimenti che poi fanno le aziende. Ma quindi sono investimenti che servono, cioè sono strumenti che ancora non ci sono, che voi auspicate che ci siano? Esatto, anche perché lo Stato ha demandato troppo alle aziende private questo tipo di attività, e chiaramente le aziende private vanno ad investire già dove trovano il cliente potenziale. Lo Stato invece dovrebbe investire anticipando il bisogno, per cui anche laddove nel piccolo paesino calabro ad esempio non ci sarebbe la necessità immediata e potrebbe spingere Telecom o chi per lei ad investire, lo Stato dovrebbe predisporre tutto quanto in modo che poi questo bisogno nasca. È un punto di partenza completamente diverso. Approfittiamo della presenza in studio di Massimo Temporelli, con cui abbiamo parlato poco fa, fisico, scrittore, divulgatore, presidente di The Fab Lab Make in Milano. Massimo, esperto di stampanti in 3D, ci stampa infatti qua una banda larga. Una banda larga, sì. Per dirci a che cosa serve la banda larga, per esempio, per chi sta sviluppando questi nuovi mestieri, questo lavoro, quanto è importante per voi? Fondamentale. È vitale, sì, perché la Network Society, così chiamata, che sta alla base di tutto questo movimento dei makers, prevede che le persone lavoreranno, il famoso, anche un'altra parola, il telelavoro, no? Le persone possono comprarsi, le persone, i professionisti si compreranno dei macchinari tipo la stampante 3D piuttosto che frese, controllo numerico o laser cutter, e potranno lavorare, prototipare da casa o addirittura fare piccole serie di prodotti. Se non hai la banda larga, non hai una connessione più che ottima per connetterti al tuo cliente che ti manderà la richiesta dell'oggetto che vuole stampare, che vuole costruirsi, tu sei tagliato fuori, come avere la vetrina non nel corso principale del... Per farla molto più semplice, diciamo, visto che prima hai fatto un esempio secondo me straordinario, che è il fatto di arrivare un giorno a far sì che se ti si rompe un pezzetto della tua lavatrice tu te lo stampi in casa invece, sì, che andare dal rivenditore. Se però per stamparlo per problemi di connessione tu ci metti 28 giorni, ti conviene prendere l'ascensore e scendere, andare, perfetto, a comprarlo dal rivenditore. Perfetto. Se c'è la banda larga, finalmente noi ci stamperemo i pezzi in casa. Senta Cupini, qual è l'obiettivo della campagna, che l'hashtag lo ricordo è più banda larga, cioè dove volete arrivare, qual è il punto, un punto che sarebbe soddisfacente, un impegno che chiedete al governo, non lo so, dica lei. Ma l'obiettivo è condividere con il Parlamento un piano di investimenti anche da parte del CIPE per cercare di capire come destinare i soldi, in quale parte d'Italia, e cercare di avere un piano chiaro da qui ai prossimi 3 anni che cosa aspettarci in termini di aumento dell'infrastruttura. Chiaro che poi serve un canale di ascolto da parte di Twitter e di chi ha aderito, insomma siamo circa 300.000 persone che in un modo o in un altro hanno visto questo tipo di messaggio, per poi avere un feedback importante. Va bene, insomma, perché fra i tanti impegni che ha assunto il governo Renzi, e nella persona in particolare del Presidente del Consiglio, sempre molto attivo sul fronte degli annunci, sulla banda larga c'è qualcosa di specifico? Ma allora, le indiscrezioni dicono che a Palazzo Chigi si sta ampliando, diciamo, la corrente, sì, di chi vorrebbe poi fare un annuncio in questi termini e dare poi al paese un piano strutturale importante. Cioè, ci accontentiamo intanto dell'annuncio, perché se uno dall'annuncio, sì, almeno l'annuncio dice anche perché questa cosa la vogliamo con fare. Con tutti gli annunci che ci sono, se non c'è neanche l'annuncio vuol dire che proprio non si fa di sicuro. Esatto, quindi aspettiamo con ansia l'annuncio sulla banda larga. Va bene, Cupini, noi siamo con lei, con voi, più banda larga per tutti, anzi no, senza per tutti. In bocca al lupo e staremo a vedere. Grazie mille. Arrivederci, buona domenica. Ricordiamo 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per commentare tutto quello che avete sentito, per fare domande magari anche a Massimo Temporelli, oggi in studio con noi. Ma si vince la maglietta maker oggi o no? No, la maglietta si vinceva ieri. Adesso non mi dire così che poi mi apri un varco di frustrazione agli ascoltatori di oggi. Allora ti leggo un bellissimo SMS, sì, che diciamo, visto che non siamo stati in onda per 10 minuti, perlomeno guadagniamo questo bellissimo SMS che dice: ci mancate tanto come mi mancano i Pink Floyd. È la miseria. Mica pizza e fichi, voglio dire. Luca da Milano, buongiorno. Sì, ciao ragazzi. Ciao. Sì, mi siete mancati anche a me stamattina per un po'. Da dove chiami? Da Milano. Ah, sì, ho acceso e non andava già, quindi non ho idea esattamente, sì, di quanto tempo. Vabbè, adesso ci siamo di nuovo, vai. Ok, niente, io volevo provare la risposta per il personaggio misterioso di oggi. Sì. Sentiamo. E secondo me è Francesco Totti. L'applauso. C'è partito l'applauso. È già partito. Adesso però adesso non ci devi spiegare tutto. Esatto. Ci devi spiegare tutto. Vai. Ah, d'accordo. Dunque, barzellettiere, credo, perché sia per un libro di barzellette. Sì, sì, esatto. È stato autore, eccetera. E divide Roma Lazio. Bravo, perfetto. È capitano. Capitano. E la notizia. No, manca ancora un aspetto. Vecchio perché la notizia poi ha a che fare con quello. Sì, la notizia in realtà sarebbe che è vecchio e che è stato il calciatore più anziano a segnare in Champions. Perfetto. Bravo. La notizia non è che è vecchio, poverino, non è vecchio, c'ha 38 anni, direi, che insomma, è in splendida forma. Secondo me è giovanissimo, comunque. Perfetto. Va bene, Luca, bravo. Complimenti, hai vinto. Fra l'altro, chiamando da Milano è anche più semplice perché la mostra Chagall si svolge a Milano, quindi meglio così. Grazie, perfetto. Luca, bravo. Grazie. Complimenti. Ci fermiamo. Ci per fermiamo. Il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si incontrarono senza volerlo, per caso si guardarono, un dromedario ricco ed un cammello povero si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole, e allora ci ripensò, e si le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò, e il dromedario disse così: sai che c'è? Io buongiorno al direttore del parco di San Rossore, Andrea Gennai. Buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, ma lei dove si trova adesso? Si trova al parco? Sì, io sono nella tenuta di San Rossore, che è una parte del parco che è più ampio. Sì. E siamo sulla spiaggia per fare questa attività. Ecco, perché la invidiamo moltissimo. Com'è la giornata lì sulla Bellissima, spiaggia di San Rossore? Ma viene voglia di fare il bagno. Mamma mia. Sì, stavo per dire non ce lo dica perché moriamo di invidia, ma no, ce lo dica. Ci faccia morire e crepare tutti di invidia e va bene così. Senta, potevate essere qui e non siete venuti. D'altronde siamo in onda, in radio. La vita è fatta dire. Di scelte. Ma cosa state facendo? Facciamo la prima esperienza di un'attività un po' particolare, pulizia della spiaggia. San Rossore ha una spiaggia protetta, non accessibile al pubblico, sì, che però riceve rifiuti dalle mareggiate. Siamo alla foce dell'Arno, tutti i rifiuti che arrivano in mare, il mare giustamente ce li restituisce con le mareggiate. E sono tanti questi rifiuti? una quantità incredibile. Ma che roba c'è, per esempio? Faccia qualche esempio. Dalle bombole del gas vuote, i cestelli delle lavatrici, fino al monte di plastica. Cestelli della lavatrice, le bombole del gas vuote. Ma pensate alle inciviltà della gente, la follia umana di gente che butta in mare o nel fiume, non ho capito. Ritornano dal nel fiume. Ah, ma e come mai è una spiaggia che non è accessibile al pubblico? Perché Sarrosone prima era una tenuta presidenziale, ci stava il Presidente della Repubblica, certo, prima ancora in Savoia, quindi è sempre stata protetta. Adesso lo è per motivi naturalistici. Naturalistici delle bombole? Non bisogna disturbare le bombole? No, proprio perché su questa spiaggia ci sono delle dune conservate in maniera eccezionale a livello italiano, fra le migliori. Ah. E quindi la loro pulizia anche dai rifiuti che arrivano dal mare è delicatissima, per questo facciamo questa attività. Di Senta, ma quanti siete adesso lì a fare questa cosa? Siamo oltre 50, siamo oltre 50, ma abbiamo dovuto fare il numero chiuso perché pulendo le dune e calpestandole bisogna fare attenzione perché altrimenti... Ah, c'erano più richieste ancora di... Cioè, scusi, un attimo, la domenica mattina di venire a pulire il Parco di San Rosso c'erano più richieste dei posti disponibili volontariamente? Assolutissimo, ma abbiamo mandato via gente, questa è la notizia, sì. Queste sono cose che ci fanno ben sperare per il futuro, vedi? Perché evidentemente c'è voglia di fare cose buone. C'è casa mia da mettere a posto se qualcuno di quelli che non è riuscito a entrare a San Rossore vuole. C'è Milano che c'ha delle zone che andrebbero ripulire. No, adesso mi sentono gli amministratori, il sindaco si arrabbia. Sì. Voi non usate i dromedari, questo è il trucco. Ah, ecco, e questo è il punto, tra l'altro. Perché questi sono i famosi dromedari che vi hanno donato gli scout durante, cioè in occasione del raduno di quest'estate. Il raduno dei dromedari? No, è stato in dono. È stato un dono particolare perché ci ha riportato 300 anni indietro, quando nel 1622 dalla Tunisia arrivarono i primi dromedari a San Rossore e si trovarono così bene, regalati ai medici, alla famiglia che dominava queste terre, che sono diventati 200 e sono stati in tenuta per 3 secoli, poi però, la Seconda Guerra Mondiale. Poi sono finiti con la Seconda Guerra Mondiale. Se li sono mangiati tutti le truppe, era un momento un po' particolare. Sì. Mangiati? Ah, veramente? Ragazzi, sì, erano perché tempi c'erano brutti. Le truppe mongole qui a San Rossore. Sì. Che sono ghiotte, i mongoli sono ghiotti di dromedari? Diciamo che il dromedario è laggiù quello che per noi è la mucca. La mucca, certo. E questa cosa dei dromedari, tra l'altro, aveva suscitato anche un po' di reazioni degli animalisti, insomma... Vabbè, sappiamo che lì a volte si esagera coi toni, no? Perché dicevano che non era clima, non era ambiente per i dromedari. Adesso che li usate per andare a pulire, mi immagino che qualche altra critica vi è arrivata o sono tutti dall'associazione dromedari. dei sindacati. Il sindacato dei dromedari. No, in realtà noi qui in tenuta alleviamo vacche da carne e cavalli da lavoro. Sì. E allo stesso modo il dromedario, che è di altri paesi, ma è un animale da lavoro in questo senso al pari di questi. E quindi noi ne facciamo un uso tradizionale, non esiste il dromedario selvatico nel mondo, sono tutti animali domestici e vengono usati per queste finalità. San Rossore poi è adattissimo perché ha tutto fondo sabbioso e un clima molto mite grazie alla vicinanza al mare e lo ha dimostrato il fatto che sono proliferati in quei secoli che vi dicevo. Ma e quindi li usate i dromedari? Li usiamo soprattutto per questa attività perché raccogliendo i rifiuti sulla spiaggia, dopo c'è da portarli via e non ci sono strade. E quindi li caricate sul dromedario? Che è adatto a camminare sulle dune. Ma è bellissimo. Ma quanti dromedari avete? Adesso gli scout ce ne hanno regalati 3, due dei quali sono già domati operativi e stamani faranno questa prima prova. E il terzo? Il terzo è una è piccolina a casa di un anno. Ma è bellissimo. È una piccolina di un anno, non è ancora in grado di lavorare. Ma come si chiama? Non facciamo come lavorare, si chiama? No, è un anno. È lavoro minorile. Lavoro minorile dei dromedari sarebbe, è veramente troppo. Già di denunce ne abbiamo abbastanza. Hanno dei nomi? Gabardini vuole sapere se hanno dei nomi questi dromedari. Allora, ce l'hanno nelle loro precedenti esperienze. Vite. Volevo sapere se uno si chiamava Dario, è ovvio. No, negativo. Uno si chiama Sultan, però noi faremo adesso un concorso di idee e gli vogliamo dare nuovi nomi legati alla storia di questo. Fateci sapere perché ma noi siamo una crisi d'identità. Siamo a disposizione per il concorso giusto, di idee. Ah, giusto, facciamolo noi il concorso del nome del dromedario. E l'altra come si chiama? Volentieri. L'altra non me lo ricordo nemmeno perché abbiamo deciso di non usarli quei nomi lì. Ah, niente, li chiamate Drome 1 e Drome 2. Bravo, sì. Va bene, Drome e Dario a sto punto. Gennai, grazie per essere stato con noi e ci faccia sapere, perché sul concorso di idee noi ci siamo sempre disponibili. È il mio sogno dare il nome a un dromedario. Buona pulizia lì della spiaggia di San Rossore. Quanti metri, quanti chilometri dura? È lunga? Sono 6 chilometri di spiaggia, oggi ne faremo un pezzettino. Ma poi andate avanti. Sì, quindi ci saranno molte altre giornate di questo tipo e chi vuole è benvenuto. Benissimo, molto bene, grazie, complimenti, grazie, buona domenica. Dobbiamo salutare anche il nostro Massimo Temporelli che è stato in studio qua con noi. Vabbè, cosa hai stampato nel frattempo? Perché Massimo Temporelli, se tu lo lasci da solo per 20 ti produce secondi, un dromedario in miniatura. Potrebbe stampare un'automobile, un computer, un elicottero, scappare, non si sa. Domenica prossima continuiamo a parlarne, i lavori del futuro. Grazie a tutti, ad Andrea Piana, Giorgio De Luca, Lucia Tolve, autori, redattori di questo programma, Peter Bescapè in regia quest'oggi. Ciao a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori e chi ci ascolta in podcast. Buona giornata, ciao.